Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Iniziamo. Prima di iniziare e raccontarvi un po' come avevamo immaginato di gestire queste tre ore, due ore e mezza di lavoro, io lascerei la parola alla consigliera Giulia Di Girolamo, che è consigliera con il Bologna con delega proprio ai temi della legalità, per presentare il senso anche di questa iniziativa dal punto di vista dell'amministrazione bolognese. Grazie, buongiorno a tutti, ci tengo a ringraziarvi per aver deciso di partecipare a questi incontri di formazione che iniziano oggi e proseguiranno fino al 29 novembre. Degli incontri che battezzano un progetto del Comune di Bologna, che è appunto l'Osservatorio Permanente per la Legalità e il Contrasto alla Criminalità Organizzata, un progetto che nasce un anno e mezzo fa e che quest'anno è stato riconosciuto come uno dei progetti meritevoli all'interno dell'accordo di programma firmato con la Regione Emilia Romagna e sostenuto dalla legge 18 del 2016. Il Comune di Bologna ha deciso di supportare questo progetto e le giornate che andremo ad affrontare sono organizzate in collaborazione con Avviso Pubblico, che ringrazio Francesco Vignola per essere presente, e la Cineteca di Bologna. In breve, ringrazio innanzitutto, permettetemi, la dottoressa Trevisani e il dottor Finardi che mi hanno supportato e aiutato a organizzare anche loro per l'amministrazione queste giornate di formazione. In breve, che cos'è l'osservatorio? L'osservatorio nasce dall'idea di creare una struttura, un contenitore all'interno del Comune di Bologna che potesse in qualche modo concentrare tutta una serie di attività legate allo studio, alla ricerca e alla promozione della legalità, sempre con riferimento al contrasto alle mafie. Abbiamo qui dei relatori, Giuliano Palagi, Nicoletta Parisi e la sostituto procuratore Antonella Scandelari, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, che appunto con il focus di oggi ci spiegheranno anche perché è importante parlare di questi temi in questo contesto. Gli obiettivi fondamentali di questo strumento che si avvarrà per il suo funzionamento e per la sua effettiva incidenza sul territorio, sia degli assessorati, perché comunque stiamo parlando di un tema molto trasversale, sia di tutti gli attori sociali e istituzionali che su questo tema nel nostro territorio da anni operano. Non solo all'interno dei propri ambiti di competenza, ma anche, ad esempio, mi viene da dire, all'interno delle scuole, perché appunto trasferire quella cultura della legalità attraverso ognuno, attraverso la propria professionalità, a tutta la cittadinanza. Quello che si propone di fare questo osservatorio è appunto ricerca, documentazione e iniziativa sociale, approfondire anche in maniera scientifica, come cerchiamo di fare anche con questi incontri, da un po' il senso di questi incontri, le diverse mafie presenti nel nostro territorio, quali sono le condizioni socio-economiche che le hanno permesso di proliferare e di radicarsi, al fine di realizzare una mappatura puntuale della loro presenza nel nostro comune. Ovviamente, come dicevo prima, l'osservatorio si avvarrà della collaborazione di tutti coloro che avranno interesse a collaborare con il Comune di Bologna. Siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta, ne faranno parte ovviamente l'amministrazione comunale, le associazioni del terzo settore, i dirigenti scolastici, le categorie professionali, economiche e non, i sindacati e la prefettura, le forze dell'ordine a tutti i livelli. Le funzioni principali saranno appunto quella di informare i cittadini sia sulle attività sia sui temi specifici e di formare non solo i cittadini, ma come in questo caso anche dare un contributo nella formazione anche a voi che partecipate a questi incontri. Io non mi dilungo oltre, vi ringrazio ancora per la partecipazione. Allora, io ringrazio la dottoressa Di Girolamo, nel ringraziarla a nome di Avviso Pubblico ringrazio il Comune di Bologna, che ha voluto fortemente questa iniziativa, e nel ringraziarla ringrazio anche la regione Emilia-Romagna, che è finanziatrice di parte di questo percorso, come di altri percorsi che si stanno sviluppando in tutta la regione attraverso i finanziamenti del testo unico sulla legalità che 2 anni fa la regione ha promosso. Ringrazio i relatori e le istituzioni da cui i relatori provengono. Ringrazio la dottoressa Scandellari e la Procura di Bologna, che dal primo momento in cui ho cercato un contatto è stata assolutamente disponibilissima, così come la dottoressa Parisi e l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che anche in questo caso è stata cortesissima a prestarsi ad essere qua oggi pomeriggio, e infine Giuliano Palagi, che è direttore di Acer Bologna, un'istituzione del territorio, perché ci porta un'esperienza anche più concreta amministrativa. Allora, come immaginavamo di gestire questo tempo di lavoro? 3 relazioni da circa 20 minuti ciascuna. La prima della dottoressa Parisi, con l'idea che ci permette, ci aiuti, come dire, a costruire il contesto della corruzione e delle politiche anticorruzione in questo paese. Dopodiché la dottoressa Scandellari, che ci aiuti a calarlo anche all'interno del contesto criminale e territoriale, ovviamente tralasciando tutto ciò che è indagine viva in questo momento e che non è possibile dire. E infine il dottor Palagi, per presentarci un modello concreto, visto che sta anche nel titolo il tema dell'azione amministrativa dell'ente, e il dottor Giuliano Palagi è stato anche direttore di una provincia, della provincia di Pisa, e delle società controllate e partecipate come Acer, di cui lui è direttore attualmente. Ultime 3-4 cose veloci che spero vi aiutino a capire un po' il senso di questo percorso che nasce oggi e che vorranno fare. Intanto, chi sono io? Io sono Francesco Vignola e sono il responsabile del Dipartimento Formazione di Avviso Pubblico. Avviso Pubblico, lo vedete in questa slide, è un'associazione di enti locali, province e regioni. Nasce nel 1996, nasce insieme a Libera, dallo stesso nucleo di persone che fonda Libera, e che in quel momento, dopo le stragi, nel periodo in qualche modo in cui il fermento era più forte nel nostro paese, decide di fondare 2 organizzazioni, una fatta da cittadini, singoli e associazioni, e questa è Libera, Libera Nomi, Numeri contro le Mafie, e una fatta da amministratori locali, che è Avviso Pubblico. All'epoca, 96, erano 15 le amministrazioni, alcune delle quali proprio di questo territorio. Oggi siamo circa 400 soci, ci sono 11 regioni e la maggior parte sono comuni medi e comuni piccoli in tutto il nostro territorio. Facciamo cose diverse, collaboriamo con le altre istituzioni, con ANAC, con le procure, con le commissioni parlamentari su una serie di temi, con le università, e proviamo a fare sostanzialmente cultura e formazione negli enti locali da cui proveniamo e nei contesti in cui gli enti locali si trovano. Qui vedete alcune delle iniziative, la carta di avviso pubblico, che è uno dei primi codici etici per gli amministratori, alcuni appuntamenti come Raccontiamoci le Mafie, che solo poche settimane fa è terminato in un comune piccolissimo del Mantovano, però c'è stato il procuratore nazionale antimafia, c'è stato il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, è stato presente Don Luigi Ciotti. Proviamo, diciamo, a costruire cultura. Perché, e veniamo qua ad oggi, perché riteniamo sia importante fare un focus su questi temi? Intanto perché il tema della corruzione è un tema che, ahimè, non è più considerato emergenziale. Si parla ormai di fisiologia della corruzione. Questi sono i dati di Transparency International sulla percezione della corruzione nel nostro paese del 2016. 2017, i dati che hanno presentato poco tempo fa, vedono una crescita leggera che ha, come dire, 2 elementi di interesse. Il primo è che la crescita è costante dal 2012, cioè da quando l'autorità nazionale anticorruzione è intervenuta con la legge 190. C'è una lieve ma costante crescita. Dall'altra però il dato è che continuano a collocarci insieme ad altri paesi come la Bulgaria, la Grecia, e questo è il dato della percezione, non vuol dire vero o non vero. Però è un dato interessante perché è preso da alcuni stakeholder, tra cui gli investitori, che continuano a ritenere che per questi motivi il nostro sia un paese in cui è difficile intervenire. Quindi c'è questo dato sulla corruzione, però ce ne parlerà meglio la dottoressa Parisi. C'è un dato di cultura questa mattina Libera ha presentato il rapporto Libera delle idee, cioè per un anno e mezzo loro hanno raccolto questionari e interviste circa 10.000 in tutto il paese. I dati sono, ahimè, terribili, li vedete scritti lì. Solo il 38% degli intervistati pensa che mafia e corruzione siano un problema forte nel nostro paese, e solo l'8,5% pensa che il problema delle mafie vada al di là dei territori di origine. Quindi, come dire, è necessario farlo anche per una dimensione culturale. Il tema però non è solo farlo, ma è anche come farlo, perché ahimè gli stereotipi sono molti in circolazione. Oggi le mafie e la corruzione non sono quelle che noi abbiamo conosciuto, non ci sono più gli omini con la coppola e il fucile che vanno in giro, e sono sempre più connesse l'una all'altra, perché soprattutto nei territori non di appartenenza, per le mafie la corruzione è lo strumento per inserirsi nell'economia legale e costruire legami indissolubili, perché un amministratore locale, un funzionario pubblico che entra in contatto con l'organizzazione criminale si presta poi per sempre, diventa uno strumento perenne nelle mani delle organizzazioni criminali. E la stessa corruzione si è molto modificata. Questa è una slide del dottor Vannucci, che ironicamente dice dal menage à trois all'orgia sistemica della corruzione, nel senso che rispetto agli anni di Mani Pulite è molto più complesso il sistema corruttivo, che significa che sono molti più gli attori in campo, e una parte degli attori in campo significativi sono i professionisti, non solo le amministrazioni pubbliche, chi detiene risorse pubbliche. Quella intercettazione famosa del processo in India della dottoressa Roberta Tattini, una commercialista qua di Bologna, che riceve nei suoi uffici un importantissimo boss calabrese, Nicolino Grandaratri, e nelle telefonate ne parla come di un onore, con la totale inconsapevolezza della caratura criminale, con una consapevolezza che ammanta il personaggio di un'aura quasi da telefilm, ma l'inconsapevolezza totale dello spessore, della pericolosità. Il tema è con chi se ne parla, e anche perché in quest'aula ci sono avvocati, commercialisti, ci sono iscritti agli ordini. Allora, ANAC lo dice dal momento in cui il 2014 fa la prima analisi dei piani anticorruzione, e ci dice che uno degli elementi carenti insieme alla cultura dell'adempimento è lo scarso coinvolgimento degli stakeholder esterni. Ora qui il tema è, va bene, ANAC lo dice, io lo devo fare, ma per uscire dalla logica dell'adempimento è importante comprendere che quel messaggio è fondamentale, ed è fondamentale per una serie di motivi. Il primo, perché le istituzioni da sole fanno fatica. La nostra politica in questo momento è quanto mai fragile e permeabile, e uno degli elementi di questa fragilità e permeabilità è dato dal basso numero di persone che votano. Questi sono dati delle elezioni 2017, comune del Nord Italia, non parliamo della Calabria o della Sicilia, 50% dei votanti, su 15.000 votanti si diventa Presidente del Consiglio con 188 voti. Immaginate quanti comuni ci sono da 30.000 abitanti qua, immaginate qua quanto la 'ndrangheta ci mette a spostare 188 voti. Niente. Allora, la politica ha un problema, che è un problema oggettivo, e lo stesso problema lo ha la burocrazia. Questi sono dati dell'Unione Europea. La nostra burocrazia è la più bassa in termini di efficienza e efficacia quasi di tutta l'Unione Europea. C'è un eccesso di adempimenti, DUP, PEP, performance, trasparenza, bisogno, a cui si aggiunge il piano anticorruzione. Gli stipendi dell'ente locale, quei 27.000 sono lordi, sono tra i più bassi di tutta l'Unione Europea. Lo stipendio dei dipendenti pubblici in Italia è mediamente più alto, perché i dipendenti delle regioni e dello Stato hanno valori differenti. L'età è la più alta dell'Unione Europea, l'età media. Nel 2020 lo stock sarà in gran parte sui 60 anni. Capite che è difficile fare la guerra alle mafie e alla corruzione con questi strumenti in mano. Il livello culturale è molto basso e l'opinione pubblica non ha una grande opinione, no? di ciò che i nostri dati devono aiutarci a capire, non che non possiamo farlo, perché ci sono un sacco di esperienze positive, molte, fatte dalle singole persone anche in contesti difficili. però devono aiutarci a capire che chi fa il piano anticorruzione, fa le politiche, ha bisogno di aiuto. E ha bisogno di aiuto per un ultimo motivo, perché se è vero che la corruzione è diventata sistemica e sono molti soggetti, anche solo per capire di cosa parliamo, abbiamo bisogno di mettere insieme prospettive diverse. Questa immagine è la stessa statua, è stata anche qua a Bologna tra l'altro, non moltissimo tempo fa, è la stessa immagine. Il punto è che questa statua, questa scultura, non si vede uguale da nessun punto prospettico. Se mi giro da una parte vedo l'elefante, dall'altra vedo le due giraffe, e rappresenta bene come i problemi, è un giochino cognitivo se vogliamo, però il tema è, di fronte a problemi complessi abbiamo bisogno di tutti gli sguardi, chi fa il commercialista, chi fa l'avvocato, tutti gli ordini, i sindacati, le aziende, e insieme ai contesti territoriali che si produce prevenzione, se no l'azione rimane monca. Allora, noi siamo qui, questi sono gli obiettivi. Il primo è capire, visto anche l'indagine di Libera, ha senso? Per questo chiederemo anche a voi di intervenire. Ha senso oggi fare una riflessione su questi temi? Il secondo è, proviamo a disegnarlo questo contesto insieme. Abbiamo bisogno di definire il problema prima di pensare alle soluzioni. E l'ultimo è, se ne saremo in grado, per chiunque poi trovare delle soluzioni, e le soluzioni sono sempre contestuali, no? Non sono mai valide per tutti. Per fare questo cosa faremo? Io ho finito, saranno circa 20 minuti di intervento per ciascuno dei relatori, quindi indicativamente un'oretta, e poi proveremo a dialogare con voi, sperando che voi vogliate portare delle domande, ma anche portare dei contributi, come dire, assumendovi con noi un pezzo della responsabilità di questo modulo formativo e seminariale. Buon lavoro a tutti, io ho finito, scusate se sono stato lungo, spero che però vi abbia aiutato un po' a capire qual è la radice di partenza, no? Per cui per noi è importante lavorare su questi temi. Io lascerei la parola alla professoressa Nicoletta Parisi, che è consigliere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per farci iniziare il viaggio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato, ma soprattutto grazie di aver pensato che ANAC potesse essere utile in un dibattito culturale come quello che avviate con questo ciclo di 6 incontri così interessanti. A me è stato chiesto di fare un intervento di carattere generale sul contrasto alla corruzione, essendoci la presenza della dottoressa Scandellari ed essendo che avete un bellissimo evento l'8 novembre su corruzione e diritto penale, io mi attengo alla mia prospettiva, quella mia professionale, che è quella della prevenzione, e non farò incursioni sul terreno della repressione a meno che non sollecitata dal dibattito che seguirà alle nostre tre relazioni. E poiché ci siamo dati questa disciplina di parlare 20 minuti, primo perché chi parla poco sbaglia poco, secondo perché l'attenzione si tiene meglio in 20 minuti che in 30 o 40, terzo perché io sono d'accordo con gli organizzatori, il valore aggiunto di questi incontri è il dialogo, altrimenti potremmo utilizzare un libro e magari in meno tempo impareremo più cose, invece dal dialogo potrebbero nascere spunti molto interessanti. E allora io riprendo il filo del discorso esattamente dove è stato lasciato. Discutiamo di corruzione oggi e discutiamo di un paese corrotto, dove la corruzione non è più un'emergenza, ma è un fenomeno talmente diffuso. Come ha detto il relatore che mi ha preceduto, questo bellissimo rapporto è stato presentato questa mattina a Roma da Libera, ci dà uno specchio della realtà che è agghiacciante. Intanto il paese è diviso in due, nel senso che là dove c'è un 10% di percezione della corruzione al nord, al sud siamo al 45%. Là dove si parla di giovani che pensano che ci sia un modo di risalire al nord, tanti, al sud, rassegnazione totale che sfiora il 90%. Un paese quindi che marcia con due velocità, non soltanto economiche, ma con due velocità culturali, che è la cosa peggiore, perché la corruzione, quando parliamo di corruzione, parliamo anzitutto di una questione culturale. Per perché la corruzione è lo specchio di una cultura diversa dalla cultura della legalità, opposta, perché forse non c'è abbastanza allarme sociale su questo fenomeno culturale che si traduce in una situazione economicamente debitoria. Non si possono senz'altro fare conti economici su quanto sono le risorse che si disperdono in corruzione. La corruzione, loro lo sanno, la corruzione penalmente rilevante è un patto oscuro, è un reato che viene definito come un reato contratto, in cui nessuna, ce lo dirà la dottoressa, nessuna delle due parti ha alcun interesse a far emergere il patto corruttivo, la vittima è diffusa sul territorio, non è facilmente riconoscibile e quindi abbiamo uno scarsissimo allarme sociale, non abbiamo i morti sulla strada, anche se la corruzione fa vittime magari peggiori dei morti sulla strada. Come diceva una slide che ci è stata proiettata, la corruzione ha modificato struttura. Anche perché la mafia ha modificato struttura, il proprio comportamento, modelli di comportamento diversissimi, e ha usato la corruzione perché la corruzione dà minore allarme sociale della mazzatina in un vicolo di una strada di un paese. Eppure, senza quantificare in soldoni, bisogna credere senz'altro a quella correlazione che ha fatto la Banca Mondiale, la quale ha stabilito, mediante rilevazioni di dati statistici, che più il paese è corrotto, meno quel paese cresce. E si è fatta un calcolo che un paese corrotto, un'impresa, cresce mediamente il 25% di meno di un'azienda che vive in un paese non corrotto. Ora attestiamoci su questi dati e comprendiamo quanto in un paese come il nostro, che fatica ad uscire da una crisi decennale di recessione, crisi economico-finanziaria, e che in questo momento è l'unico vero paese dell'Unione Europea che soffre, che non riesce a riprendere il cammino, ecco, ci dovremmo chiedere se non sia il momento di alzare l'allarme sociale e per esempio utilizzare quelle stesse misure culturali, non dico penali, su questo non voglio entrare, poi potremmo parlare del DASP, potremmo parlare di tante cose, ma sto parlando di misure culturali che sono quelle che si usano nei confronti di chi è mafioso, cioè l'allontanamento da un contesto sociale. Io non saluto più un mafioso, non faccio più frequentare ai miei figli un mafioso e così via. Quali danni evidenti? Immediati. Un imprenditore cercherà di recuperare i propri soldi che ha speso in tangente, riversando sull'utilizzatore finale quanto ha speso. Nella sanità pubblica gli sprechi e le corruzioni consentono di fornire un servizio senz'altro meno buono, e la nostra sanità pubblica è l'esempio di questo problema di infiltrazione di corruzione e anche di spreco. In una società corrotta le relazioni interpersonali non si informano più a criterio del merito, ma a criterio dell'amicizia. Danni gravissimi, e ci chiediamo quindi se è possibile definire, riconoscere la corruzione, riconoscere il corrotto. Qui è molto facile da un certo punto di vista, perché noi abbiamo un codice penale che sotto il titolo Delitti contro la pubblica amministrazione elenca una serie di condotte, tantissime. Noi abbiamo una qualificazione delle condotte di corruzione che è la più ricca al mondo. Alcuni ordinamenti identificano soltanto corruzione attiva e corruzione passiva, e lì si fermano, senza distinguere la corruzione per fatto, la corruzione per traffico di interessi, la corruzione per induzione e così via. Noi abbiamo fatto una scelta invece molto sistematica, e questa è la corruzione penale, della quale appunto io non parlo, perché di questi tempi in realtà è in uso parlare anche di un altro tipo di corruzione. Voglio dire, la corruzione penale la riconosce il giudice, la qualifica il giudice, ci fa conseguire, se arriva in tempo senza la prescrizione, una sentenza, eccetera. La corruzione diversa da quella penalmente rilevante è invece difficilmente riconoscibile, ed è una corruzione che viene definita dagli studiosi di diritto amministrativo corruzione amministrativa, e cioè sarebbe, comprenderebbe tutti quei comportamenti che piegano l'interesse, il bene pubblico all'interesse privato. a partire dal fatto che io vado a lavorare tardi, dal fatto che io mentre lavoro guardo internet, non per lavoro ma per altre cose, che uso il telefono cellulare di servizio per telefonate private, e così, comportamenti che qualche volta non arrivano neanche alla soglia dell'illegalità, ma a quella della sciatteria, dell'irregolarità. Quindi non arrivano neanche a essere illegali sul piano amministrativo o illegali sul piano penale. Questo sarebbe il complesso della corruzione cosiddetta amministrativa. Ora io vorrei portarvi a ragionare da un'altra prospettiva, sulla quale io stessa sto ragionando, e non sono ancora arrivata ad un punto definitivo, ma mi ci sto avvicinando. Non è che invece non esiste la corruzione amministrativa, non è che invece dobbiamo pensare che questi comportamenti hanno un altro nome, sono qualificati come illeciti disciplinari dai codici di comportamento, e che in realtà tutto si riduca a un problema di conflitto di interessi, l'interesse mio e l'interesse pubblico, e che quindi qui alla base ci dovrebbe essere un codice di comportamento che va a colpire questi conflitti di interesse che si manifestano appunto col privilegiare l'interesse mio di fronte all'interesse del pubblico servizio che amministro. E che quindi in realtà questo discorso della corruzione amministrativa dovrebbe essere visto da un'altra prospettiva. Quali sono i mezzi per fare in modo che siano prevenuti questi tipi di comportamenti che manifestano un conflitto di interesse fra il pubblico e il privato, fra la sfera pubblica e la sfera privata? Quali sono quindi gli strumenti amministrativi per evitare che si arrivi alla rilevanza del fatto penale? Quindi quali sono gli strumenti che anticipano la soglia della commissione del reato o comunque della illegalità? Detto questo, quale sarebbe l'infrastruttura giuridica che consentirebbe di anticipare la soglia di allarme per poter evitare che si arrivi al fatto, alla condotta penalmente rilevante? E qui noi abbiamo un grandissimo insegnamento che ci viene dal diritto internazionale. Il diritto internazionale, la comunità internazionale, la comunità degli stati, ha avviato una riflessione sulla corruzione e sul modo di prevenirla ben prima della nostra legge 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, che prende il nome, come loro sanno, dall'allora ministro della giustizia. L'ha avviata negli anni 80 del secolo scorso e ha predisposto delle procedure, degli accorgimenti istituzionali che ha suggerito agli stati o che ha proposto agli stati con norme vincolanti, a seconda che queste misure siano contemplate in linee guida piuttosto che in convenzioni internazionali, di modo che negli stati penetrasse questa cultura della prevenzione. E nel 2012 questa cultura della prevenzione, costruita a livello internazionale, è finalmente discesa anche per i rami fino all'ordinamento italiano. E il quadro tipico di questi strumenti che dovrebbero contribuire a prevenire la corruzione lo si trova in una convenzione che si chiama Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Perché io mi fermo su questa e non sulle tante altre convenzioni, quella dell'OCSE, quella del Consiglio d'Europa, quella dell'Unione Europea? Ma perché questa convenzione ha due caratteristiche fondamentali. La prima è che in questo momento sono parti contraenti 186 stati più un'organizzazione di integrazione regionale, l'Unione Europea. Ora, gli stati della comunità internazionale sono pochi di più di 190, mi pare che in questo momento siano 193. Allora, significa che questa convenzione ha codificato in regole vincolanti, perché le norme delle convenzioni sono norme vincolanti per gli stati che le ratificano, ha codificato in norme vincolanti quello che sembra essere il comune sentire della comunità internazionale. Quindi ciò che noi troviamo scritto in quella convenzione, in realtà dovremmo pensare che sia ciò che consuetudinariamente sta per diventare la legge della comunità internazionale degli stati. Perché gli stati si sono resi conto di quell'equazione inversa, e cioè più crescita, più sviluppo, meno corruzione, più corruzione, meno crescita. E siccome la comunità degli stati presidia anche l'integrità del sistema economico finanziario, dovrebbe presidiare l'integrità del sistema economico finanziario, è logico che di fronte a condotte che minano l'integrità di questo sistema, gli stati apprestino delle misure. Quindi questa è la prima valenza di questa convenzione. La seconda valenza è che questa convenzione per la prima volta prende atto di una caratteristica intrinseca della corruzione. La corruzione è una creatura multiforme, non può essere approcciata, sconfitta o ridotta con un solo strumento. La comunità internazionale e gli stati avevano marciato contatti nel secolo scorso con la leva repressiva. Innalziamo le pene, introduciamo norme di incriminazione, in modo che allunghiamo la prescrizione, di modo che il responsabile di condotte di corruzione o di concussione venisse perseguito e subisse la condanna. Ora però, stando al fatto che la corruzione penalmente rilevante è un reato contratto e che quindi non nessuno interessa a far emergere il fatto di corruzione, intercettare un fatto, una condotta di corruzione è molto casuale. Il che significa che la leva della repressione, che è utilissima perché il diritto penale ha una funzione generale preventiva, come tutti loro sanno, la leva della repressione però è spuntata. E a maggior ragione è spuntata in un ordinamento come il nostro, che è contraddistinto non perché lo pensi io, ma perché è acclarato dalle nostre corti e dalle corti internazionali, da una cronica lunghezza dei procedimenti. E quindi dal problema che molte delle condotte di corruzione cessano di poter essere perseguite a motivo del passaggio del tempo, quindi della prescrizione. E allora, se la leva della repressione è una leva utilissima, ineliminabile, ma per certi aspetti spuntata, occorre pensare alla prevenzione. E occorre pensare in maniera olistica anche da un'altra prospettiva, che è quella che ci impegna qui oggi. Perché affidare soltanto alle istituzioni statali o alle istituzioni internazionali il contrasto alla corruzione? Perché non pensare che in realtà il contrasto alla corruzione debba avere una risposta olistica, appunto, che viene anche, come si dice con un termine moderno inglese, bottom up, e cioè dalla base, dalla società? Perché non coinvolgere quindi nel contrasto alla corruzione anche i cittadini e la società civile nelle associazioni esponenziali dei singoli cittadini? Questa convenzione per la prima volta nel diritto internazionale, e la prima parte della convenzione, ha un gruppo di norme sulla prevenzione della corruzione, dall'articolo 5 all'articolo 14. E queste norme insegnano agli stati quali sono i passaggi procedurali, istituzionali, organizzativi che consentono di mettere in campo delle misure di prevenzione della corruzione. Passaggi che la legge Severino prende fedelmente. La legge Severino esordisce dicendo: l'occasione dell'adozione di questa legge è l'adempimento della Convenzione di Merida, oltre che della Convenzione del Consiglio d'Europa. Quindi vogliamo dire una cosa che non è ancora stata detta molto spesso, che questa convenzione, per essere norma interposta ai sensi dell'articolo 117.1 della Costituzione, è una norma, questa legge Severino, è un complesso di norme superiori alla legge ordinaria. Perché, se voi conoscete il gioco della legge interposta di quell'articolo 117.1, lo capite perfettamente. La Costituzione ci dice che le leggi dello Stato e delle Regioni devono rispettare i vincoli internazionali. Se l'occasione della legge Severino è un vincolo internazionale, questa convenzione ha un rango superiore alla legge ordinaria, al decreto legge, al decreto legislativo. E ci insegna questa convenzione, e parallelamente la legge Severino, tre cose fondamentali. Occorre curare il corpo della pubblica amministrazione. Occorre curare il singolo organo della pubblica amministrazione, il singolo componente della pubblica amministrazione, e occorre curare l'agire pubblico. Parto da quest'ultimo: l'agire pubblico si cura attraverso la trasparenza. Siccome la corruzione è un patto oscuro, sommerso, la trasparenza tende a fare luce laddove invece c'è ombra. Ecco, da qui tutta quella strumentazione sulla trasparenza che il nostro ordinamento si è dato, decreto legislativo 33 del 2013, 97 del 2016, che ha adottato quel bruttissimo acronimo FOIA per indicare l'accesso generalizzato di tutti noi cittadini a tutti i documenti, gli atti e i dati della pubblica amministrazione. Curare il corpo, quindi la pubblica amministrazione dovrebbe dotarsi di un'organizzazione, ogni ente dovrebbe avere un'organizzazione che consenta di funzionare verso e di funzionare in maniera efficiente, che l'efficienza è nemica della corruzione. Laddove c'è inefficienza si annida quella corruzione spicciola che è quello, per esempio, che ho letto oggi sul giornale. Ti chiedo 40 euro per evadere una pratica, ti chiedo 40 euro per modificare la tua dichiarazione dei redditi nella quale hai fatto un errore. È notizia di oggi sui giornali, purtroppo, della cronaca romana. Per 40 euro ci si vende, quasi come se fossero i 30 denari di nota memoria. Curare quindi il corpo con misure organizzative che rendano efficiente il corpo. Non sto a raccontarvi quali sono le misure organizzative, le conoscete, è tutta quella pianificazione a cascata che, partendo dal piano nazionale anticorruzione, scende per i piani triennali, che, partendo dal codice nazionale, codice di comportamento, scende sui codici di comportamento di ogni singolo ente e così via. Il singolo organo, quindi la singola persona, questa è una parte centrale. L'articolo 54 della nostra Costituzione ce lo dice: bisogna che il pubblico dipendente abbia un rapporto di fedeltà con la Repubblica potenziato rispetto al cittadino. È una fedeltà moltiplicata, perché deve assolvere le proprie funzioni con dignità e con onore. E allora, funzione dei codici di comportamento, funzione di tutti quegli strumenti che evitano il conflitto di interessi, anche potenziale, anche apparente e anche successivo, pantouflage. E poi basta, i tre pilastri sono questi, e la legge Severino su questi tre pilastri responsabilizza ciascun ente pubblico perché si dia dall'interno le norme per curare il corpo, curare l'organo e curare l'agire pubblico. Un provvedimento successivo di 2 anni, il 2014, il decreto legge 90, ha messo un focus particolare su un'area della pubblica amministrazione. Quindi non è un quarto pilastro dell'attività di prevenzione della corruzione, è una modalità per declinare questi tre pilastri entro un settore che, stando agli ultimi dati Istat, occupa il 15% del PIL nazionale, quindi un settore rilevantissimo, quello dei contratti pubblici. E applica queste misure di prevenzione dei conflitti di interesse, di integrità della singola persona, di organizzazione, anche alla stazione appaltante che si occupi di contratti pubblici. E avete una sessione di lavoro sui contratti, quella del 25 ottobre, e quindi qui mi fermo. Quindi questa strategia di prevenzione della corruzione ha una dimensione organizzativa che ciascun ente deve darsi essendo responsabilizzato dalla pubblica amministrazione e una dimensione istituzionale che tiene insieme l'intero sistema. Questa dimensione istituzionale trova il punto di forza nell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo dico non perché io sono qui, sono orgogliosa di far parte di questa istituzione, sono onorata di avere un presidente che è l'incarnazione dell'integrità, ma lo dico perché veramente un sistema così parcellizzato di prevenzione della corruzione allocato dentro ciascun ente sta insieme soltanto se c'è un organo che è in grado di fare regolazione, vigilanza, controllo di tutto il sistema, altrimenti il sistema sarebbe assolutamente autoreferenziale. A chi renderebbe conto? Un comune di Bologna, una camera di commercio della provincia di Bologna, la regione, eccetera eccetera, se non ad un'autorità terza che dovrebbe aiutarla a incarnare dentro nel proprio DNA queste regole di curare il corpo, curare la persona e curare l'attività. ANAC, e questo potrebbe essere un argomento di discussione dopo, ha una serie di poteri, di funzioni che vanno dalla regolazione alla vigilanza, al controllo, con funzioni ispettive, potere d'ordine, eccetera. E vorrei soltanto dire una parola su queste funzioni, sulle quali poi entro soltanto su specifica domanda. Queste funzioni sono pensate dalla prospettiva della prevenzione, quindi non una vigilanza successiva, ma una vigilanza preventiva. Non una regolazione punitiva, ma una regolazione concertata con la società civile, sia nella fase precedente alla scrittura delle linee guida, sia nella fase precedente all'approvazione del draft di linee guida scritte. Uno stimolo all'attività normativa di governo e Parlamento, uno stimolo all'attività repressiva con un dialogo continuo, circolare, tanto con l'Avvocatura dello Stato quanto con i PM. Una competenza precontenziosa che ha una funzione consultiva di portata generale, e tutte queste funzioni sono esercitate nella prospettiva di collaborare con ciascun ente pubblico a che quell'ente pubblico incameri quelle misure organizzative che dovrebbero servire a scongiurare l'annidarsi di fatti di corruzione dentro a quella pubblica amministrazione. L'ultimo punto sul quale voglio rapidamente fermarmi a chiusura di questo intervento è prendendo spunto soprattutto da questo bel rapporto di cui abbiamo già parlato due volte in sola mezz'ora, è questo. Questo rapporto a pagina 90 ci mette di fronte, vi dico anche la pagina perché se qualcuno di voi se lo procura almeno va a verificare i dati, questo rapporto a pagina 90 ci dice una cosa che veramente stamattina quando Don Ciotti ne ha parlato io sono rimasta perplessa. Allora, come si fa a abbassare il livello di corruzione in Italia? Intervista, questo è un rapporto sulla percezione della corruzione, quindi è fatto su interviste di persone che dicono se sono state raggiunte dati corruzione, eccetera, eccetera. Allora, la maggioranza delle persone, il 51%, dice denunciare. Poi abbiamo un 27% che dice rifiutarsi di pagare, un 20% che dice votare per gli onesti. È questo dato del 20% che mi ha sconvolto. E cioè noi cittadini consapevoli che abbiamo uno Stato che dice, che diciamo di essere democratico, che mettiamo nella democrazia rappresentativa il fulcro della nostra vita pubblica, ci permettiamo di dire che soltanto il 20% di noi pensa che sia opportuno votare per persone oneste. Ma allora chi ci governa? Ci governano persone disoneste. Noi pensiamo che non sia importante chi sta in Parlamento, chi fa il primo ministro, chi fa il vice primo ministro, chi fa il ministro delle infrastrutture, eccetera, eccetera. Evidentemente sì, se evidentemente noi riponiamo fiducia nella denuncia, che è un atto individuale che ti deresponsabilizza. Perché tu denunci e poi dici il compito è tuo, passa a te. Non occorre più che io venga interpellato, certo io venga a fare il testimone, se tu mi convochi non posso sottrarmi, ma non è compito mio sconfiggere la corruzione, non è compito mio partecipare alla cosa pubblica mediante il voto, magari mettendomi anche in gioco, godendo quindi dell'elettorato passivo. E soltanto il 15%, e veniamo all'altro dato veramente sintomatico, pensa che iscriversi ad associazioni, partecipare a manifestazioni o firmare petizioni, fare manifestazioni pubbliche, insomma mettersi insieme per fare qualcosa abbia una qualche importanza ai fini di sconfiggere la corruzione. Questo è esattamente il contrario di quello che penso io, che non è molto importante che voi aggiungete quello che penso io, però dico, da questo rapporto esce una fotografia della mia Italia che è esattamente contraria a quello che io penso. Io ho insegnato ai miei figli che il problema è la responsabilità individuale, che ciascuno di noi vive in mezzo a due pilastri, da una parte la propria responsabilità, dall'altra la meritocrazia. In questo modo soltanto noi possiamo pensare di avere una qualche possibilità di successo nell'abbassare il livello di corruzione. Perché rifiutare la competizione, quindi rifiutare la meritocrazia, significa abbassare la qualità dell'agire tanto privato che pubblico. Non ci possiamo lamentare se cade un ponte. Non abbiamo messo lì le persone giuste, le abbiamo messe lì per amicizia. E d'altra parte continuare a delegare ad altri ciò che invece dovremmo fare noi alimenta la cultura della corruzione perché sveste ciascuno di noi della responsabilità sulla gestione della cosa pubblica. La polis perde completamente significato, ci riempiamo la bocca di parole di democrazia e non viviamo in maniera democratica. Quindi ho lasciato da parte apposta queste mitenni, che era il corpo della mia relazione, ma se vogliamo ragionare di come abbassare il livello corruzione, forse non dobbiamo fermarci alle questioni tecniche, ma dobbiamo parlare di infrastruttura etica, e cioè di opporre ad una cultura della corruzione una diversa cultura, quella della legalità. E in questo ambito allora io mi sento di dire una cosa che è assolutamente impopolare, e è la seconda volta che sono impopolare oggi, e cioè che di questi tempi in cui ci si sta riempiendo la bocca della parola semplificare, semplificare, semplificare, mani libere, facciamo in fretta, io invece opporrei una cultura della legge, della regola. Non per dire che ci devono essere tante procedure, che quindi alla fine poi le adempiamo in maniera formale, ma per dire che dobbiamo incamerare l'idea che la regola è la normale, il normale modo del vivere civile, e che la regola è la tutela del più debole. Lo Stato di diritto nasce per rompere la supremazia, l'arbitrio di un'unica persona e pone l'obbligo della separazione del potere, lo Stato di diritto, proprio per spezzare l'autorità, il potere monocratico. E la burocrazia moderna, Weber ce l'ha detto, nasce col mito dell'efficienza e della impersonalità del potere. Ora, noi dovremmo provare a riscoprire queste due banali cose che hanno retto tutto il pensiero dell'Ottocento. Grazie dell'attenzione. Si sente? Sì. Io ringrazio la dottoressa Parisi per la ricchezza dell'intervento, nel senso che ha attraversato davvero tante cose. Io mi sono preso un po' di appunti, però ha chiarito secondo me perfettamente la complessità del tema corruzione, o meglio, come la corruzione intrecci dimensioni molto diverse: la dimensione normativa, indubbiamente, la dimensione dei diritti individuali. Tanto più c'è corruzione, più è difficile pretendere e rendere esigibili i propri diritti individuali, le dimensioni economiche, col rapporto tra crescita inverso, tra crescita economica e corruzione, le dimensioni penalistiche, le dimensioni organizzative, che in questo gioco, in questa partita, sono tutt'altro che indifferenti, e le dimensioni culturali. Sottolineando una cosa che io credo sia fondamentale, io l'altro giorno, proprio sollecitato su questi temi, sono finito a casa e ho ritrovato, non so se qualcuno di voi li ha mai avuti, i garzantini, i dizionari della Garzanti, quelli piccolini, cioè, io non lo uso mai più, era una roba di qua, però l'ho ritrovato, ho cercato una cosa su questo, e secondo me questo è centrale, anche immaginando voi che siete in aula, come professionisti, perché il tema della cultura organizzativa individuale si avvicina a quello della norma, ma si differenzia. E lì c'era la differenza fra etica e deontologia, e che secondo me in questa questione è importante, perché lì si dice la deontologia fa riferimento ad una serie di regole codificate nell'ambito delle categorie professionali, regola i comportamenti degli appartenenti a tale categorie, ponendo anche dei doveri. Sono quindi paragonabili alle norme, in qualche modo, perché in caso di inosservanza ci sarà una sanzione. Però, come diceva la dottoressa Parisi prima, c'è un tema diverso anche, che è la dimensione etica. E la dimensione etica invece ha carattere morale. E infatti una specificazione del particolarismo morale e indica i comportamenti legati al ruolo che un soggetto svolge all'interno della società. A differenza della deontologia, non pone doveri, e l'inosservanza non comporta una sanzione, ma solo un giudizio morale. Allora, parlare di corruzione significa stare agganciati a tutte queste dimensioni più una, e qui passerei la parola alla dottoressa Scandellari, che è quella della trasparenza. E la domanda che a me viene in mente è: come fa una procura a stare in contatto con una realtà così multidimensionale e contemporaneamente così opaca? No. Come fa ad affrontarla, con quali strumenti, e dall'altro pezzo è se ci aiuta, come dicevamo all'inizio, anche a capire un pezzo il suo lavoro e un pezzo il suo lavoro su questo territorio, no? Quindi con una specifica anche più territoriale e geografica. Ringrazio per l'invito intanto che mi è stato rivolto ad avviso pubblico, dirò subito che mi ero preparata un intervento di una quarantina di minuti, quindi la contrazione andrà a scapito della, come dire, della coerenza del tutto. Gli strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione, questa è la cornice, questo è il titolo del tema di questo incontro e quindi io lo affronto dal punto di vista naturalmente della magistratura penale. La magistratura penale si occupa della repressione dei fenomeni criminali e assai di rado adotta dei provvedimenti diretti a prevenirli. È tuttavia vero che un sistema repressivo efficace, cioè che combini delle sanzioni eque e quindi generalmente condivise in tempi e proporzionate alla gravità dei fatti, in tempi rapidi o comunque ragionevoli, ha un'indubbia efficacia preventiva di per sé alla della commissione dei reati. Sempre valido l'insegnamento di Cesare Beccaria, che mi sembra risale alla metà del Settecento, sulla certezza, prontezza ed equità della pena in funzione preventiva dei reati. Dobbiamo riconoscere che il sistema giudiziario è molto lontano dal conseguire italiano, naturalmente, ben lontano dal conseguire questo risultato. A dispetto di un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio dei reati di corruzione e a dispetto di una percezione diffusa e nel consorzio sociale appunto della vastità e pervasività del fenomeno corruttivo, non, i processi che si celebrano per questo per questa tipologia di reati sono molto pochi. Bisogna dunque interrogarsi, io l'ho fatto sul da tempo perché tratto i reati contro la pubblica amministrazione da vari anni. Dicevo, bisogna interrogarsi sul perché questo accada. Alcuni dicono che intanto io faccio il magistrato penale, faccio il pubblico ministero, dopo aver fatto svolto la funzione di giudice nella prima parte della mia carriera, sempre in ambito penale. Alcuni dicono che bisognerebbe potenziare gli strumenti a disposizione dei magistrati, soprattutto dei magistrati inquirenti. Tuttavia, dico io, all'interno di un sistema penale come quello italiano, sostanzialmente al collasso, anche questo mi sembra che sortirebbe scarsi risultati. Bene ha detto la dottoressa Parisi di ANAC su tutta una serie di misure preventive su cui, a mio avviso, è più fondato riporre delle speranze rispetto che sul sistema repressivo tout court. Volendo parlare degli strumenti a disposizione dei magistrati per contrastare il fenomeno corruttivo, bisognerebbe fare dei cenni al panorama normativo. Io penso che nella platea non ci siano solo avvocati o giuristi esperti, quindi farò dei cenni molto, molto brevi e poco tecnici senza entrare nello specifico perché altrimenti mi farei addormentare tutti. Il punto di vista, come ha già citato la dottoressa Parisi, può essere dato dalla legge Severino. La legge Severino del 2012, voluta a larga maggioranza dal Parlamento dell'epoca, disposizione per la prevenzione, la repressione della corruzione e delle illegalità nella pubblica amministrazione, è stata una buona legge, globalmente considerata. Tuttavia la legge 190 del 2012 è stata modificata già il 27 maggio del 2015 con la legge numero 69 che è entrata in vigore nel giugno di quell'anno. Lo scorso 24 settembre è stato presentato alla Camera dal Ministro della Giustizia Bonafede il disegno di legge numero 1189. Misure per il contrasto dei reati contro la PA in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Quindi lasciatemi fare una prima osservazione proprio come giurista. Il cambiamento ripetuto in un breve arco temporale della normativa su una medesima materia, in questo caso il tema dei reati di corruzione, è di per sé un fattore gravemente disfunzionale per la giustizia penale. Perché a tacere d'altro genera una serie di problemi di non minimo, di non scarso momento, di diritto intertemporale, rallenta la definizione dei processi con le note conseguenze in termini di prescrizione e addirittura, dico io, rende persino difficile agli stessi operatori del diritto conoscere in modo approfondito la normativa da applicare. Per una repressione efficace dei fenomeni corruttivi non serve cambiare la norma ogni 3 anni. Come dimostra peraltro il fatto che siamo oggi come ieri in mezzo a bufere giudiziarie che toccano il livello politico, che scuotono il mondo economico e imprenditoriale, inutile che faccia nomi ed esempi dalle indagini romane di maggior risonanza, ma insomma anche andando indietro, l'Expo, il Mose, i fatti dell'ANAS, eccetera, eccetera, Roma Capitale, Consip e via dicendo. Quindi non abbiamo, come dire, contrastato efficacemente il fenomeno corruttivo. Devo poi ricordare che il numero dei detenuti per i cosiddetti white collar crimes in Italia è pari a circa un decimo della media europea. E anche su questo dobbiamo un po' riflettere, perché se è vero che la percezione della pervasività della corruzione è così alta, la risposta sanzionatoria è molto scarsa. Come ha già ricordato la dottoressa Parisi, quindi non mi dilungo, la Severino nasce su impulso delle autorità europee, sull'impulso della necessità di dare seguito a degli impegni internazionali, la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite, la Convenzione sulla corruzione del Consiglio d'Europa, eccetera, tutte ratificate dall'Italia con un enorme ritardo, perché la Convenzione di Merida del 2003 è stata ratificata nel 2009 e quella del Consiglio d'Europa del 1999 è stata ratificata nel 2012. Questo perché comunque il carattere ormai transnazionale dei fenomeni corruttivi aveva reso impellente la necessità di armonizzare la repressione penale sia a livello europeo che a livello internazionale. La scelta più qualificante della legge Severino è stata quella di separare, e qua passatemi un attimo, entriamo un attimo più nella norma, veniva criticato in buona sostanza il delitto di concussione che faceva salvo da sanzione il privato in quanto fosse stato costretto o indotto dal pubblico ufficiale alla dazione indebita. Così si diceva, si metteva sostanzialmente in mano al pubblico ministero la scelta di tirare la corda da una parte o dall'altra a seconda che il privato mostrasse o meno una propensione a collaborare. Questo perché ovviamente qualificare il privato come concusso lo rendeva penalmente esente da sanzione e quindi parte offesa, testimone. Qualificarlo invece come corruttore lo rendeva penalmente sanzionabile, tutti imputati. La scelta quindi del 2012 è stata di scorporare, di lasciare la concussione costrittiva nell'articolo 317 e scorporare la costrizione induttiva, l'induzione, facendo l'oggetto di una nuova fattispecie penale 319-quater, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, spostando quindi quest'ultima verso l'area della corruzione con il prevedere la punibilità anche del privato che è indotto a dare l'indebito. Questo è il dato, direi, più significativo che vi volevo segnalare della legge Severino. Diceva prima giustamente la dottoressa Parisi che abbiamo un proliferare di norme, noi pensiamo che moltiplicare gli obiettivi, no, cioè i centri di tiro, aumenti la risposta sanzionatoria, cioè moltiplicando le fattispecie penali copriamo tutta l'area, non c'è nulla che rimanga, come dire, la casella vuota e quindi avremo una repressione più efficace. Così non è. La compresenza di diverse fattispecie delittuose tra loro contigue corruzione, indebita induzione, concussione, rende a volte molto difficile inquadrare sin da subito la condotta che si va a valutare dal punto di vista del magistrato penale. Pone dei problemi interpretativi, posto che la linea che divide le tre figure non è così semplice da individuare. Non entro neppure lontanamente, quindi non vi spaventate, nella disamina della sentenza Maldera, Cassazione Sezioni Unite, che per chiunque pratica, se ci sono degli avvocati in questa sala, chiunque pratica reati contro la pubblica amministrazione è il prontuario, è la Bibbia, perché le Sezioni Unite in quella, con quella pronuncia fanno proprio una specie di catalogazione delle condotte e dicono: qua si parla di concussione, in questa si parla di corruzione, di dazione indebita, eccetera, eccetera. Quindi è una sentenza molto importante, ma che appunto riconosce la difficoltà estrema del giudice, del magistrato, di inquadrare sin dall'inizio una condotta, e quindi necessita sempre comunque una particolare attenzione al fatto. La riforma elaborata dal ministro Severino nel 2012 si è poi rivelata complessivamente inadeguata a contrastare i mutamenti comportamentali e la pervasiva diffusione dei fatti di corruzione, che diffusione che appare non più quindi connessa a isolate attività amministrative, ma come era nel disegno primitivo del codice penale dell'epoca fascista, è diventata il frutto di scelte programmatiche di gruppi affaristici o criminali che mirano a una gestione distorta, illegale del potere politico, amministrativo ed economico. È universale l'affermazione da parte dei commentatori che in Italia ormai da decenni la corruzione ha cessato di essere un fenomeno episodico, venendo ad assumere diffusione appunto larghissima, quindi dimensioni di larghissima diffusione a tutti i livelli dell'organizzazione pubblica, statale e locale. Non si limita più ai piccoli burocrati, ma arriva a coinvolgere i vertici amministrativi e politici delle istituzioni e dei grandi enti economici. Di modo che l'azione della pubblica amministrazione ne risulta complessivamente delegittimata, venendo a essere guidata dalle sollecitazioni dei soggetti economicamente più forti e spregiudicati, con danno finale di quelli più deboli. Sotto il profilo economico, poi, la diffusività della corruzione implica un'ulteriore spinta verso la concentrazione della ricchezza nelle mani di coloro che riescono comunque ad essere partecipi di questo sistema corruttivo, con conseguente ulteriore impoverimento di coloro che, volenti o no, ne rimangono fuori. Il sistema economico si adatta e si compenetra con questa corruzione che è stata definita sistemica, abbiamo visto anche le slide, nel senso che la corruzione, questo è anche un elemento di vitalismo di questo tipo di quest'area di reati, la corruzione può diventare uno strumento di sopravvivenza di un sistema imprenditoriale arretrato, può diventare il mezzo per attenuare i danni prodotti sul sistema economico produttivo, ad esempio da una pubblica amministrazione gravemente inefficiente. Nel senso che se la lentezza e la farraginosità dell'azione della pubblica amministrazione sono ovviamente degli ostacoli al dinamismo del sistema economico, la corruzione permette di rimuovere questi ostacoli e ridare impulso, certo non disinteressato né lecito, all'azione amministrativa a favore delle imprese. La corruzione inoltre contribuisce a sostenere le ingenti spese della moderna politica e i politici ricambiano attraverso l'assegnazione delle commesse pubbliche ai benefattori. Vi è poi l'aspetto più preoccupante su cui, semmai nel secondo giro, adesso vediamo il tempo che mi rimane, dirò qualcosa. L'aspetto più preoccupante del fenomeno corruttivo che è quello che si lega alla criminalità organizzata. Questa, disponendo di ingentissimi capitali, li utilizza come mezzo corruttivo per agevolarsi in impunità, per agevolare l'impunità delle proprie attività illecite, che sono la stessa fonte di quelle risorse. I profitti illecitamente realizzati, d'altra parte, sono così ingenti da consentire alla criminalità organizzata di impiegarli anche in attività lecite, cosicché attraverso la corruzione ne è agevolata la penetrazione economica sui mercati. Come ho già detto, la legge Severino ha subito già una prima modifica dopo 3 anni, la legge 69 del 2015 ha proseguito su un trend di inasprimento del trattamento sanzionatorio per i principali reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. E quindi dico da adesso che sarebbe stato utile, dal punto di vista del magistrato requirente, sommessamente, spero che nessuno si scandalizzerà se ci sono degli avvocati penalisti in aula, sarebbe stato utile, e dirò perché, prevedere un innalzamento della pena anche per il delitto di abuso d'ufficio, 323 codice penale, che non è stato toccato invece. Perché ciò avrebbe al fine di consentire di effettuare intercettazioni telefoniche ambientali, oltre che informatiche e telematiche, che saranno anche un tipo di indagine superata, però non tanto, come dimostrano anche recenti casi giudiziari. E dico questo perché il reato di abuso d'ufficio, un po' meno il reato della turbata libertà degli incanti, ma sicuramente il reato di abuso d'ufficio, è quello su cui è un reato spia della corruzione. Secondo alcuni anche è una corruzione non provata, ma comunque è certamente il primo reato che il magistrato può configurare nelle prime battute di un'indagine. Non si parte mai da una corruzione provata, mai. E quindi avere la possibilità di impiegare strumenti investigativi performanti, per dirla, sarebbe sicuramente una buona cosa, cioè consentirebbe di sviluppare in modo adeguato le indagini che di solito appunto richiedono anche la ricostruzione, ad esempio, dei rapporti esistenti all'interno di un ufficio e così via. La la riforma del 2012 si è dimostrata, dicevo, complessivamente inadeguata a contrastare i fenomeni criminali a cui assistiamo attualmente. E la legge del 2015, ho già detto, ha proseguito in questa strada dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio. Al di là di quello che si pensi circa l'efficacia in termini di prevenzione generale dell'inasprimento delle sanzioni, io sono poco fiduciosa, perché appunto assai più efficace in termini preventivi la certezza della pena in tempi ragionevoli. Ciò ha avuto comunque il pregio, passatemelo tra virgolette, di allungare i termini di prescrizione, nel senso di dare maggior respiro alle indagini che normalmente si presentano molto complesse e che molto spesso sono state vanificate dal decorrere del termine di prescrizione. Parimenti apprezzabile è la previsione della legge del 69 di aumento della durata delle pene accessorie, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sospensione dall'esercizio di una professione, la modifica della pena accessoria, dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego in caso di condanna per i principali reati contro la pubblica amministrazione, di cui è prevista l'applicazione con una condanna superiore a 2 anni, mentre prima occorreva una condanna superiore a 3 anni. Pure condivisibile è stata l'introduzione dell'istituto della riparazione pecuniaria, 322-4 CP, che prevede che con la sentenza di condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione debba sempre essere ordinato dal giudice il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza. Insieme a questo, quindi insieme alla misura della riparazione pecuniaria, si aggiunge la previsione della confisca del prodotto o del profitto del reato, che si può eseguire anche per equivalente, 322 ter CP. che è la misura con cui si rimuove il vantaggio economico ritratto dalla commissione del reato contro la pubblica amministrazione e derivato appunto al patrimonio del reo. Questi principi, l'introduzione di questi istituti è sicuramente apprezzabile, va nel senso di una giustizia riparativa che è sicuramente da perseguire, tuttavia non è incentivato da un lato le collaborazioni e dall'altro ha sortito un'efficacia dissuasiva, ad esempio alla richiesta di riti alternativi. Voi capite che il patteggiamento ha subito un duro colpo con la necessità di rifondere e restituire integralmente il prezzo o il profitto del reato. Anche qua, senza dubbio, positiva l'introduzione di una diminuzione della pena per chi, chiamata a rispondere di reati contro la pubblica amministrazione, si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze, ovvero per assicurare la prova dei reati, per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero ancora per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. È uno schema di contrasto alla criminalità di origine tipicamente americana. Loro lo chiamano il carrot stick model, cioè il bastone e la carota, nel senso che la reazione dello Stato alla criminalità deve essere improntata non soltanto a una logica repressiva e punitiva, ma anche e soprattutto a una logica riparativa, preventiva e premiale. Quindi questa è sicuramente una previsione utile, e è anche perché mira a rompere quel muro di omertà che pervade gli scambi affaristici corruttivi e che vincola non solo i corrotti ma anche i corruttori. Dico subito che la difficoltà che scontano i processi per corruzione, e il motivo per cui se ne fanno molto pochi, è anzitutto una difficoltà di tipo probatorio. In 28 anni di carriera, prima come giudice, poi come pubblico ministero, io non ho mai incontrato il buon padre di famiglia che assiste impassibile allo scambio corruttivo e poi lo viene a riferire in un'aula di tribunale. Non è così. Sarà banale ricordarlo, ma la difficoltà di questi processi è che vedono solo imputati, corrotti e corruttori. E si badi che anche quando il privato assume la veste di vittima, in quanto subisce l'iniziativa o l'inerzia del pubblico ufficiale, non è così propenso a sporgere denuncia, perché in un sistema diffuso e condiviso di corruzione la sua denuncia ne decreterebbe l'esclusione definitiva dal mercato, per non essersi adeguato alle tacite regole del sistema affaristico. Questo è uno dei motivi per i quali i processi penali sono molto scarsi. Io non so a che punto sono, direi qualcosa sul DDL spazza corrotti e poi mi riservo dopo, se vi interessa, qualche battuta tra i rapporti corruzione e mafia. Il DDL spazza corrotti, non spazzerà i corrotti come non l'hanno spazzati, diciamo, i precedenti interventi normativi, e rappresenta l'ennesima riforma in materia di corruzione e delitti contro la pubblica amministrazione. Anche qua assistiamo a un inasprimento delle pene, è ancora all'esame del Parlamento, quindi vedremo cosa uscirà. Diciamo, le prime avvisaglie dicono questo. L'estensione della riparazione pecuniaria al privato corruttore, e richiamo la vostra attenzione su due innovazioni di rilievo, anche qua parlando di strumenti per la lotta alla corruzione. La prima è una causa di non punibilità, cioè non è punibile, dice la norma, il nuovo articolo 323 ter, chi ha commesso alcuni dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione elencati nella norma, se prima dell'iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato e comunque entro 6 mesi dalla commissione del fatto lo denuncia volontariamente, e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. Quindi, oltre a questi requisiti temporali, il secondo comma della norma dispone che la non punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, del trafficante di influenze illecite, è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita, ovvero di una somma equivalente, ovvero l'indicazione di elementi utili per individuarne il beneficiario effettivo. Poi, per evitare delle strumentalizzazioni, la norma prevede, all'ultimo comma, che questa causa di non punibilità, che quindi porta avanti la precedente solo diminuente della pena, adesso è prevista una causa di totale esenzione dalla pena, tuttavia la denuncia non deve essere premeditata alla commissione, rispetto alla commissione del reato denunciato. Anche qua l'intento è quello di rompere il muro di omertà e la catena di solidarietà che protegge queste fattispecie che sono tipicamente bilaterali. E dall'altro c'è anche l'intento di disincentivare delle condotte illecite introducendo un fattore di insicurezza con effetti dissuasivi. Nessuna delle parti dello scambio illecito potrà infatti fare affidamento sul comune interesse a tacere se entra in vigore una norma siffatta, e quindi questo potrebbe essere un cavallo di Troia. La seconda innovazione riguarda il cosiddetto agente infiltrato. È estesa la disciplina, che è già prevista per altri reati, dalla legge del 2006-146 ai reati contro la pubblica amministrazione, delle operazioni di polizia sotto copertura. Vengono indicati i reati per i quali quindi sarà possibile fare queste operazioni di polizia sotto copertura. È chiaro che è una norma che mira a potenziare gli strumenti investigativi nei confronti di delitti che di apprezzabile gravità e di difficile accertamento per le ragioni che abbiamo già detto. Il disegno di legge include tra le condotte scriminate da questa causa di giustificazione anche quelle che integrano le fattispecie tipiche di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Quindi anche condotte si attagliano, diciamo, a una fattispecie penalmente rilevante, potranno essere poste in essere dagli agenti sotto copertura durante le indagini senza incorrere in sanzioni. Le condotte non punibili però restano confinate a quelle necessarie per l'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso e che non istighino o provochino chi no la condotta delittuosa, ma si inseriscano in modo indiretto e meramente strumentale nell'esecuzione di attività illecite altrui, così recita la relazione. In questo modo il legislatore mostra di avere ben chiara la distinzione tra agente infiltrato e agente provocatore. L'agente provocatore, molto di moda nel sistema nordamericano, è quello che là legalmente una situazione accettata e largamente praticata, gli è consentito provocare la commissione dei reati, una specie di test di resistenza per cui si sonda la fedeltà, la onestà dei politici attraverso queste metodiche. Da noi non sarebbe possibile, anche perché si porrebbe in contrasto con svariati principi della nostra Costituzione. Io dico solo un'ultimissima cosa, è chiaro che la sanzione penale colpisce solo la coda del fenomeno corruttivo, sempre che venga alla luce, e non innesca nessun processo virtuoso che incida sui comportamenti alla radice di questo fenomeno. Bisogna poi riconoscere che esistono dei potenti interessi a che le cose non mutino, non cambino. Una certa classe imprenditoriale può trovare più comodo farsi largo nel mercato col mezzo della corruzione anziché con gli strumenti della leale concorrenza. La classe politica, da parte sua, trova nella corruzione una preziosa fonte di arricchimento personale, ma anche di finanziamento delle spese ingenti richieste dalla competizione politica. L'azione giudiziaria di contrasto alla corruzione diffusa presuppone una magistratura, specialmente una magistratura inquirente indipendente dai cosiddetti poteri forti. anche perché proprio sul fronte della lotta alla corruzione si genera il rischio maggiore di una reazione del potere politico contro la magistratura, diretta a isolarla e a screditarla. Per questo l'efficacia dell'azione giudiziaria contro la corruzione presuppone che la magistratura possa anche contare su un diffuso sostegno e consenso popolare, come si verificò nella stagione delle indagini Mani Pulite e come non sempre si verifica oggi, perché questa è l'unica condizione che può scoraggiare la reazione avversa di una certa classe politica. Se così è, se è richiesto un profondo, anche oggi, un profondo mutamento nella cultura e nei comportamenti anche di questa generazione, se si deve sostituire, come ha detto benissimo anche prima la dottoressa Parisi, la cultura della legalità a quella dell'illegalità, ritengo che la lotta alla corruzione passi assai più dalle aule delle scuole e delle università che dalle aule dei tribunali. Vi ringrazio. Io ringrazio la dottoressa Scandellari anche per aver evidenziato, come dire, alcuni aspetti di difficoltà in cui si trova la magistratura inquirente, che mi pare possano anche essere sintetizzati con elementi di difficoltà collegati al fenomeno in sé. Nessuno denuncia, è difficile da definire l'aspetto corruttivo, e ha una difficoltà connessa a queste norme che mutano costantemente il quadro in cui si opera. Io non sono sorpreso, non sono sorpreso nel senso che è una cosa che ho registrato in più di un'occasione e che io rileggo anche dalla mia prospettiva con una parola che si chiama solitudine. E che è una solitudine anche che più che responsabilità, come dire, del potere politico, di chi fa le norme, è una responsabilità che io tenderei ad attribuire a noi tutti, perché in questi anni il meccanismo di delega profondo alla magistratura su tutti i temi dell'antimafia sociale è stato potentissimo. C'è un bellissimo libro che si chiama I Tragediatori di Francesco Forgione, che è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia, che rilegge il percorso dell'antimafia sociale, no? Anche attraverso questo meccanismo di delega alla magistratura. Ed è una delega pesante, che non è sorprendente l'eccesso di norme in un paese che non sanziona moralmente. Cioè, tanto meno una collettività, a me pare evidente, non so se, cioè, però tanto meno una collettività è in grado di sanzionare al proprio interno moralmente i comportamenti dell'individuo rispetto a una cultura definita e solida collettiva, tanto meno lo fa la società, tanto più chiede di farlo al legislatore, di intervenire con norme sempre più numerose, perché di da sé non si autoregola, e tanto più il legislatore interviene, tanto più chiede di intervenire e chiede alla magistratura di commissionare quella sanzione che la collettività di suo non trasmette. Allora, io chiederei a Giuliano Palagi di aiutarci, perché uno dei soggetti coinvolti in questo meccanismo della delega spesso è stata incapace di autosanzionarsi, autoregolarsi, è stata la pubblica amministrazione, no? In tutte le sue sfaccettature. Con una gravità enorme, non dal punto di vista dei numeri, perché la corruzione tra privati, io non so i dati cosa dicono, non è tanto bassa. Il problema della corruzione fatta dalla pubblica amministrazione è che riguarda risorse pubbliche, che riguarda le risorse di noi tutti, a quell'elemento di gravità, no? A un elemento di tradimento molto più profondo. Allora, cosa si può fare? Quali sono le operazioni virtuose che tu hai conosciuto direttamente, che hai incontrato? Cosa può fare una piccola amministrazione nella sua versione ente locale, provincia, regione, e anche nella sua versione società partecipata di fronte a un fenomeno come questo? Sì. Grazie. grazie per l'invito all'avviso pubblico, ovviamente è un rapporto di collaborazione che va avanti da diversi anni. Non è semplice intervenire a questo punto, perché dopo il punto di vista dell'autorità e il punto di vista di chi opera all'interno di uffici giudiziari, le domande che faceva ora Francesco Vignola richiederebbero, come dire, un ciclo soltanto per questo, per quanto riguarda le cause. E quello che io voglio proporre è un qualcosa che sta a metà fra un intervento tecnico, come sono stati quelli che mi hanno preceduto, e una testimonianza. Allora, per provare a rispondere alle domande di Francesco, intanto dico questo, che il mio intervento è diviso in due parti molto semplici. La prima, che parla di alcune pratiche, che sicuramente non sono soltanto della realtà dove ora mi trovo ad operare come direttore generale e anche da poco come coordinatore dell'avvocatura dell'ente, e che quindi sono comuni letteralmente e sostanzialmente, per esempio, agli enti proprietari, prima di tutto il Comune di Bologna, che ci affianca sempre, con il quale lavoriamo costantemente a livello di amministratori e a livello di uffici, e dopo alcune considerazioni, diciamo, sul versante normativo, sia su quelle che sono diventate sostanzialmente il modo più conosciuto e direi anche quello più riuscito, una volta superato un problema per gli italiani, no, di entrare nel concetto di linea guida di ANAC. Da questo punto di vista ce ne sono un paio di documenti importanti che riguardano anche gli enti pubblici economici, come Acer Bologna è, ma che mi dà lo spunto, nel tempo che mi controllerà precisamente Francesco, di fare qualche riflessione e qualche collegamento anche con le cose che sono state dette prima. Allora, per parlare delle pratiche delle quali ci siamo occupati, e per pratiche, sapete, anche in questo senso intendiamo processi, non necessariamente procedimenti amministrativi, io qui lascio completamente da parte tutta la discussione sull'inquadramento soggettivo di enti come Acer Bologna. Chi ha voglia di approfondirlo può vedere, fra i tanti di recente, un volume del commentario del codice civile che un bravissimo studioso che si chiama Mario Falzone ha fatto sull'articolo 2093, e a quello io mi riporterei integralmente. Intendo dire che sempre di più lo fa la giurisprudenza penale, lo ha sempre fatto sostanzialmente, lo fa la giurisprudenza contabile, con qualche passaggio nei primi anni 2000 che hanno comportato, come dire, possibilità di revirement, come si dice, ma che poi sostanzialmente hanno accertato e hanno confermato la giurisdizione contabile. Quindi secondo me non ci sono dubbi sul fatto che sia un'attività di pubblico interesse e per finalità pubbliche quelle che svolge un'azienda come quella nella quale mi trovo ad operare, e d'altra parte la genesi e, come dire, la compartecipazione in termini di indirizzo, controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali lo dimostra ampiamente. Allora, per raccontarvi, o meglio fare riferimento, poi il materiale, come normalmente in questi casi facciamo, un po' di file, un po' di cartaceo, è già stato consegnato alla segreteria, all'organizzazione di avviso pubblico, di queste pratiche io le distinguerei in tre categorie e vi faccio dei rapidi cenni. Tutti si potrebbero aspettare che io inizi dagli appalti, no, non solo perché c'è un incontro dedicato, ma anche perché sono intimamente convinto di una cosa che sta sempre più uscendo fuori, ma che ovviamente non deve far abbassare la guardia, che oggi gli interessi di chi dall'esterno si avvicina alle strutture della pubblica amministrazione, agli enti pubblici, si sta un po' spostando, dico un po' spostando, quindi sono termini, come capite, molto tecnici, dal settore degli appalti, che nonostante i dati del 2017 vedano un leggero aumento dei dati e dei volumi dei lavori soprattutto aggiudicati, quindi smentendo chi diceva che con il codice degli appalti del 2016, nel 2016 si è effettivamente registrata una flessione, ma nel 2017 ci sono stati dati di aggiudicazione in aumento, dicevo che la maggior parte dell'interesse dei soggetti che operano in maniera illegale non sia più necessariamente rivolto nei confronti degli appalti, ma nei confronti di altri strumenti, che sono l'urbanistica contrattata, che sono gli interventi di modifica e gestione del territorio e quant'altro. Con questo, ripeto, non bisogna abbassare la guardia, e non ho, per fortuna, esperienze significative di contrasto a fenomeni corruttivi che si sono verificati e che abbiamo dovuto segnalare all'attenzione della magistratura. Però intendo partire esattamente dalle procedure che sono sempre ricomprese nell'ambito dei documenti di ANAC che riguardano le persone, quindi procedure selettive, gestione del personale, attività di tipo formativo e aggiornamento, per un motivo che capirete molto evidente. La differenza all'interno delle organizzazioni la fanno comunque queste persone. Ed è vero, Francesco Vignola ha descritto un quadro un po', insomma, preoccupato e preoccupante dello stato della pubblica amministrazione in Italia. Su quegli anagrafici, per esempio, mi sono sentito leggermente chiamata in causa, ma è anche vero un'altra cosa che secondo me va detta. Va un po' sfatato il mito che secondo me almeno da una decina d'anni è entrato, o comunque la leggenda metropolitana della pubblica amministrazione, che è causa dei mali prevalenti del nostro paese. Noi abbiamo una taglia di personale complessivamente inteso, non parlo soltanto di chi lavora negli enti locali, che è mediamente ormai, per il blocco delle assunzioni, in linea con quello degli altri paesi europei, delle competenze che sicuramente non sono di tipo inferiore a quelle che ci sono in altri paesi europei. E qui mi verrebbe da dire con una battuta: ci sono delle grandi istituzioni che noi teniamo presenti come delle specie di cattedrali da questo punto di vista del sapere e del saper fare amministrativo. Bene, qualche giorno fa c'era la notizia su tutti i principali quotidiani, quelli che se ne occupano, che l'ENA, la grande scuola di amministrazione pubblica francese, ha il bilancio in rosso da diversi anni e non riesce a superare questa situazione. Ora, devo dire la verità, non voglio fare lo sciovinista o il provinciale da questo punto di vista, però sapere che la gestione della più grande scuola di amministrazione pubblica europea e probabilmente una delle più importanti del mondo occidentale non riesce a far quadrare i conti all'interno, forse qualche dubbio e qualche interrogativo anche poi sulla capacità di formare effettivamente dei grandi gestori della cosa pubblica e che poi diventano a volte anche grandi manager privati, ce l'ha. Questo per dire che un grande Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, diceva che gli italiani non si sentono né superiori né inferiori ad altri popoli, penso si possa dire anche per il problema della corruzione, di conseguenza proviamo a crederci un po' di più nei ruoli professionali che svolgiamo, sulla validità dell'impegno che si può e si deve spendere tutti i giorni. Allora, le pratiche delle quali parlavo. In materia di personale abbiamo adottato abbastanza di recente, un anno e mezzo fa circa, un regolamento nell'autonomia dell'ente, perché quelli come quello dove opero, quindi Acer Bologna, sono comunque considerati dalla legge istitutiva come giustamente dotati di autonomia da vari punti di vista, patrimoniale, organizzativa, eccetera eccetera, un regolamento per le selezioni dall'esterno che, al di là sulla discussione del concorso privato all'interno degli enti pubblici economici eccetera, stabilisce che qualunque tipo di accesso dall'esterno o qualunque tipo di progressione interna si fa per criteri di merito e con procedure ad evidenza pubblica nel primo caso se l'accesso è dall'esterno, o comunque di tipo comparativo all'interno. E non sono soltanto gli enti pubblici che consentivano, vi ricordate, il famoso posto in banca assicurato al figlio quando il padre andava in pensione, però abbiamo pensato che questo fosse un segnale, ed è un segnale che ha prodotto, questa è la seconda, il secondo esempio che vi porto, all'assunzione di complessivamente 12 nuove unità di personale laureate prevalentemente con professionalità tecniche, a fronte di circa 35-40 uscite per il normale turnover che c'è ovviamente per la fine del servizio. Ecco, ciascuna di queste persone, rispetto a un impianto che era già questo ma che abbiamo cercato semplicemente di perfezionare, ha fatto una procedura di evidenza pubblica con due prove scritte, una prova orale e quant'altro. Può sembrare banale dirlo, ma in realtà, siccome le partecipate erano e continuano ad essere nell'immaginario per alcuni un po' il ventre molle da una parte della pubblica amministrazione o comunque un settore pubblico allargato, per noi questa cosa era importante e l'abbiamo voluta realizzare. Altrettanto importante ritengo è stato l'investimento sulla formazione. A partire dalla fine del 2015, diciamo che di formazione dedicata, non quella obbligatoria che devono fare i tecnici o che devono fare i professionisti come i nostri avvocati, i nostri ingegneri eccetera, abbiamo dedicato circa 1200 ore di formazione ai temi del nuovo codice degli appalti, con qualche mese di anticipo rispetto all'entrata in vigore, e a un corso base, ve lo dico anche qui può sembrare banale, ma secondo me non lo era, mi sono reso conto che così non era, di diritto amministrativo, perché indubbiamente svolgendo funzioni delegate da molti enti territoriali, fra i quali il Comune di Bologna, che sono a tutti gli effetti esercizio di funzioni pubbliche, salvo in alcuni casi l'adozione del provvedimento finale, mi sono reso conto che questa storia della parziale privatizzazione aveva prodotto un po' di confusione, per cui l'essere privati o pubblici era un po' come il gommino che raccontava un vecchio notaio siciliano quando si trattava di distinguere fra interesse legittimo e diritto soggettivo. Lo abbiamo fatto e mi sembra di poter dire che gli atti si fanno un po' meglio. Comunque, in ogni caso, c'è stata una grande rispondenza da parte del personale. Sulla taglia del personale complessivo, rispetto, ovviamente io parlo dei dati che conosco rispetto ai miei incarichi, al mio incarico, erano circa 200 le persone che lavoravano in azienda nel 2014, sono diventate 170, anche qui al solito per il turnover, i dirigenti erano 10, oggi sono 6, quindi si fa presto la percentuale di riduzione, non soltanto in questo caso per il turnover, e il 50% di loro ha cambiato incarico a proposito di rotazione, senza particolari traumi, rispettando ovviamente dei principi di competenza, perché l'ingegnere non può certo andare a fare il responsabile degli appalti, e queste mi sembrano, per un tempo abbastanza limitato, delle cose da sottolineare. Un altro elemento, e poi mi avvicino comunque al tema degli appalti, che non vorrei aver dato l'impressione di sottovalutare, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda il versante della trasparenza e del dialogo con gli enti proprietari, ce ne sono 52 che partecipano e quindi usufruiscono dei servizi di ACER rispetto ai 60 che compongono la platea dei comuni dell'area metropolitana di Bologna. Fra pochi giorni parte, ci sarà per chi se ne occupa a livello professionale, cioè i colleghi del Comune di Bologna oppure professionisti che comunque operano con gli enti pubblici, la presentazione del nuovo sistema cosiddetto Data Warehouse, dove ci sono dentro tutti i dati di gestione che noi utilizziamo per quanto riguarda le assegnazioni di immobili, per quanto riguarda la gestione del recupero crediti, per quanto riguarda le mobilità all'interno degli alloggi e soprattutto i lavori di manutenzione, che consentiranno immediatamente agli uffici del Comune di Bologna di avere non i risultati dell'attività come da reportistica si fa trimestralmente e poi annualmente per programmare gli interventi dell'anno successivo, ma in diretta rispetto all'operato dei nostri uffici la capacità di controllare cosa si sta facendo, quanto si fa giorno per giorno. Ma la cosa fondamentale che a me interessa è che dal 2019, per indicazione degli amministratori e per scelta dell'azienda, questi dati saranno progressivamente fruibili anche da parte dei cittadini, con dei meccanismi che ovviamente tengono conto del fatto che l'accesso ai megadati, come sapete, deve essere, come dire, deve avere una sua classificazione delle procedure e quant'altro, ma io ritengo che sia un elemento di trasparenza fondamentale. Devo avere la possibilità come cittadino di Bologna di andare a vedere i tempi di intervento sui lavori che ho chiesto in tempo reale per rendermi conto se sono rispettati o meno quelli che sono previsti nella carta dei servizi e in altri documenti. Ultimo aspetto, appunto, la contrattualistica, gare e appalti per intenderci. Come sapete, il nuovo codice è entrato in vigore nel corso del 2016, circa un anno prima abbiamo aderito, credo come unica delle partecipate di Bologna, ma non ha intento polemico, una constatazione, non è, come dire, né una valutazione né un elemento di automarketing per intenderci, al protocollo di legalità che il Comune di Bologna insieme a tutta un'altra serie di soggetti, fra i quali le organizzazioni sindacali, avevano stipulato per sostanzialmente anticipare alcuni degli effetti che ci si augurava producesse il codice degli appalti. E qui vi cito in particolare due elementi: la regolazione del sottosoglia, la diminuzione fino al limite, ed è successo questo da noi, dell'affidamento di incarichi direttamente, e la scelta non prioritaria ma esclusiva, ci sono voluti 6 mesi per ottenerlo, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al posto del massimo ribasso. Vi confesso che non è stato facilissimo farlo passare nella struttura, convinta, come forse qualcuno lo è ancora, spero sempre meno, che l'altro elemento, soprattutto un lavoro che è fatto prevalentemente, capite, di manutenzione, interventi di manutenzione, fra fra l'ordinario e lo straordinario, cioè di media entità, che quello del massimo ribasso fosse il meccanismo più semplice, più comodo, più rapido da questo punto di vista. E abbiamo cercato di spiegare con i fatti che in realtà così non era, perché per esempio un elemento che è forse il più banale ma fondamentale, come quello del tempo di esecuzione, oltre che quello della qualità dei materiali, fa la differenza e sono criteri dal punto di vista dell'offerta economicamente più vantaggiosa fondamentali di scelta dei contraenti. C'è un tema accanto che non riusciamo a risolvere, questo per i vincoli che derivano dalla normativa di tipo comunitario, cioè il fatto di riuscire a legittimamente valorizzare le imprese del territorio, ma di questo probabilmente parlerete nel secondo incontro con l'avvocato Melandro e gli altri relatori, però questi sono fatti concreti. Ora torno brevemente sul tema, diciamo, del contesto, per poi chiudere, perché non so quanto tempo mi è rimasto. Allora, come spero di aver dimostrato con questi esempi, ma ce ne sono anche altri, che sono ovviamente merito della squadra che ha lavorato, alcune delle persone che lavorano con me sono qui in sala, non abbiamo aspettato che qualcuno dicesse ad Asher se e quanto le norme della 190 fossero applicabili. Abbiamo fatto un lavoro autonomo e spero ponderato di applicazione non solo dei principi, perché la legge usava il termine si applicano per quanto compatibili, no, le norme in materia prima di trasparenza e poi le altre eccetera, ma l'abbiamo fatto rispetto a quelle che ritenevamo fossero le esigenze gestionali da una parte, ma soprattutto le esigenze di resa di un servizio trasparente ed efficace. Ripeto, ci sono amplissimi margini di miglioramento, è una struttura assolutamente perfettibile che deve ancora affrontare e superare tutta una serie di problemi, però sono convinto, come diceva Cesare Pavese, e su questo ho dovuto discutere con diversi dirigenti, che i problemi si affrontano attraversandoli, cercando di arrivare a un punto diverso da quello di partenza, non evitandolo, perché capite bene che con le prime linee guida ANAC, la delibera numero 8 del 2015, la prima reazione quasi unanime era no, abbiamo già applicato le norme sulla trasparenza, non ci complichiamo la vita, perché è giù tutta una serie di motivi giuridici di grandissimo pregio, a noi non si applicano. Non ero così convinto e alcune appunto delle attività che vi ho descritto, delle procedure che abbiamo fatto partire, anche dei risultati che sono stati raggiunti non forzando la mano rispetto a chi non era convinto, ma cercando di far capire che c'era un punto di sviluppo un pochino più alto. Questo vale anche per le seconde, cioè quindi quelle del 2017, la 1134, che interveniva a quel punto su lavori ampiamente in corso, e comunque cercando di stare attenti al massimo livello possibile al lavoro di aggiornamento e interpretazione della normativa. I piani che abbiamo adottato, che sono ovviamente sul sito ma anche disponibili singolarmente, hanno tenuto conto di un'esigenza di coordinamento con il piano di attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 231 del 2001, perché in quanto ente pubblico economico si applicava la 231 fin dagli anni precedenti, ma devo dire la verità che insomma questa integrazione ha prodotto dei buoni risultati, e comunque anch'io concordo col giudizio che lo hanno detto tutte e due le relatrici che mi hanno preceduto, che la legge 190 è stata comunque un'iniziativa assolutamente positiva, non solo perché ce lo chiedeva l'Europa, ma perché ci siamo dotati di una cassetta degli attrezzi che chi vuole ha avuto modo di utilizzare da questo punto di vista. Vi dicevo prima, a me non sono capitati casi nei quali ci siamo resi conto di ipotesi o di fattispecie corruttive in corso tentate da segnalare alla magistratura. C'è capitata un'altra situazione con la quale vorrei concludere, di una grossa impresa che ha partecipato alla nostra gara d'appalto, e era non la prima ma la seconda classificata, per vari motivi non si è avuta l'aggiudicazione con la prima, è avvenuta la seconda. Nelle more della partenza dei lavori, quindi della formalizzazione contrattuale e della quindi resa effettiva dei lavori, anche con la corresponsione dell'anticipo contrattuale, che sapete ha cambiato, per il quale è stata cambiata disciplina dal codice degli appalti, perché prima si doveva concedere immediatamente, mentre ora ci sono 3 mesi di tempo per poterla concedere, ci è arrivata da parte di una direzione del settore antimafia la notizia di indagini e di misure cautelari applicate nei confronti del legale rappresentante di questa impresa. Formalmente in quel caso lì Asher, a parte la comunicazione ufficiale da parte dell'ufficio che procedeva, avrebbe dovuto attendere qualcos'altro, un'interdittiva e quant'altro. Ecco, in quel caso lì, con un po' appunto di assunzione e capacità di decisione anche al di là di quelle che erano procedure formali, lo stesso giorno sono stati sospesi i lavori, il cantiere è stato chiuso, eravamo ancora nella fase di montaggio del cantiere, e pochi giorni dopo ha seguito il provvedimento di rescissione motivato con le norme di riferimento del codice degli appalti, in quel caso lì, del contratto con la ditta. Solo circa 30 giorni dopo è arrivata l'interdittiva, è arrivata l'interdittiva antimafia da parte della prefettura competente, che poi ha affrontato e ha resistito, diciamo, all'attacco in sede giudiziaria, cioè di fronte al giudice amministrativo. Ha fatto bene o ha fatto male Acer ad adottare un provvedimento prima del tempo? Ha fatto un'azione preventiva efficace oppure no? A me interessano due cose: che non è uscito ovviamente nemmeno un euro di risorse pubbliche, nemmeno a titolo di anticipo nei confronti dell'impresa. Secondo, che rispetto al gioco evidentemente vi rendete conto molto, cioè evidente, quasi un semi-automatismo, cioè della sostituzione al momento della notizia dell'indagine nei confronti del legale rappresentante con altro soggetto, peraltro un'impresa era grossa ma era un'impresa familiare per cui portava lo stesso cognome, ci siamo tolti il dubbio di continuare a lavorare con un'impresa che poteva rappresentare un'ulteriore infiltrazione sul nostro territorio, e ovviamente abbiamo proceduto all'aggiudicazione dopo le verifiche del caso nei confronti del terzo classificato. Ecco, questo credo, cioè la capacità e il coraggio di prendere anche delle decisioni rispetto alle norme che ci sono e vanno rispettate, ma anche valorizzando l'autonomia di chi lavora all'interno degli enti, che può dare un contributo positivo al contrasto attivo nei confronti della corruzione. Tutta un'altra serie di argomenti, comprese alcune suggestioni delle relazioni precedenti e soprattutto eventuali risposte alle vostre questioni, le riservo per un secondo giro. Grazie. Io ringrazio il dottor Giuliano Paragi e colgo due spunti fra i tanti emersi, perché secondo me ci permette di mettere il focus su due che sono collegati, cioè il tema della possibilità e della responsabilità, agganciata al tema della possibilità, perché il racconto che il dottor Paragi fa non è il racconto di chi si sottrae da un contesto difficile, assolutamente, cioè tutte le difficoltà del fenomeno, del contesto interno rimangono, però di chi, ciò nonostante, individua una propria possibilità di agire dentro quel contesto complicato, cioè i dati sulla popolazione, lo stock degli operatori dentro la pubblica amministrazione non vengono usati come scusa per dire allora io non riesco a recepire le norme, le possibilità, e la difficoltà del porsi davanti alle norme rimane, ma con la scelta di provare comunque anche in anticipo a fare delle azioni. E qui si collega al tema della responsabilità, e quando il dottor Paragi parla dell'esclusione di un'azienda, e a me viene in mente l'esperienza torinese di questo momento, io sono di Torino, perché lì ci sono in gioco cifre, numeri impressionanti per il nostro paese. Il comune di Torino ha affidato attraverso gara, ma in questo momento sta valutando l'esclusione, le mense scolastiche, ovviamente, non facendo la scelta, no, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma facendo la scelta al contrario del massimo ribasso. Quello che è accaduto è che su base d'asta 14,5 milioni, la ditta che ha vinto con un'offerta a 11,6 milioni, perché su una città come Torino sono queste le cifre che ballano per la mensa scolastica di un singolo comune, quindi con un risparmio, si potrebbe dire, per le casse del comune di 3 milioni, una cifra esorbitante. Peccato che poche settimane dopo dalla procura di Prato è arrivata un'informativa antimafia sull'azienda che ha vinto. Azienda, rispetto alla quale non c'è ancora un giudizio, ma rispetto al quale non c'è la certificazione antimafia, c'è un'informativa della procuratura di Prato, azienda che peraltro gestisce il servizio mensa, ha gestito il servizio mensa nel CARA di Crotone, diventato famoso rispetto alla gestione degli SPAR. Come piccolo il mondo, un'azienda di Prato, arriva dalla procura di Prato perché è un'azienda di Prato. Allora, questi sono i fenomeni con cui ci ritroviamo ad avere a che fare, perché se è vero e le ragioni della procura di Prato sono vere, parliamo di un'azienda che è in grado di offrire 3 milioni di euro in meno e tendenzialmente almeno 1 milione e 8 in meno di tutti gli altri che hanno partecipato a quella gara. Come fa un'azienda nel nostro paese oggi a essere così competitiva? Di questo parliamo quando parliamo di corruzione, di infiltrazione, di un impatto sulla vita, sull'economia del paese straordinario. Rispetto a queste cose qui, talvolta si utilizzano meccanismi come i protocolli di legalità, i patti di integrità, le interdittive antimafia, che sul piano del diritto sono complicati, richiedono un'assunzione di responsabilità, non indifferente. Però è proprio qua che si gioca la partita. Allora, io direi che la prima parte è terminata. Spero che non vi abbiamo, come dire, stesi, l'ora è tarda e quindi anche, c'è anche un calo glicemico naturale, non abbiamo però qua da offrire né bollicine né pasticcini, speriamo che siate voi, insomma, domande, considerazioni, anche critiche, cioè nel senso che non è che l'essere seduti da questa parte del tavolo rende nessuno di noi esente da sollecitazioni e critiche, anzi. Esatto, quindi chiunque voglia, io ne raccoglierei magari solo almeno due o tre di questioni, se ci sono, in modo da non iniziare un botta risposta che poi esclude il resto delle persone. Però chiunque voglia porre una questione, io le appunto e poi lasciamo qualche risposta. Di fronte alla procura e all'ANAC fare una considerazione o una critica, me ne rendo conto, però è in realtà interessante. Io ho visto i fogli, ho visto ci sono persone che provengono da mondi professionali diversi, quindi considerazioni anche sul tessuto territoriale, l'operato dell'amministrazione, la vostra prospettiva su questi fenomeni in questo territorio, perché ce n'è bisogno, insomma. Io non segnerò nome e cognome, quindi no, è tutto. Questa parte non la registriamo, così non rimanco. Se no io chiedo ai relatori di intervenire su quelle seconde parti, secondi pezzettini che hanno tenuto nella borsa. Partiamo con il secondo giro, come dire, ve lo siete voluto. No, allora io ripartirei nell'ordine con cui abbiamo iniziato e quindi chiederei alla dottoressa Parisi, no? Ma aver potuto sentire. Grazie. Non ripesco le cose che avevo evitato di dire perché sarebbe una specie di puzzle che renderebbe incomprensibile seguire il filo rosso. Invece raccolgo delle interessantissime suggestioni, soprattutto che mi vengono dal dottor Palagi di Acer. Faccio, apro una parentesi, un siparietto. È la prima volta da 4-5 mesi che vado a parlare in un posto pubblico e che non vengo investita da insulti. Non so se perché siamo diventati assolutamente trasparenti o se perché avete una passione sconfinata per Anac. Vorrei sperare che sia questa seconda cosa. Comunque vi ringrazio perché sono stato oggetto anche di insulti piuttosto violenti che non fanno mai bene a nessuno. Comunque, allora... chiuso la parentesi. Allora, il dottor Palagi ha detto due cose molto interessanti, a parte le cose interessanti del penale che ha detto la dottoressa, ma siccome siamo più contigui come argomenti, io e il dottor Palagi, vorrei raccogliere gli spunti suoi. Ha detto due cose molto interessanti. Ha detto dell'utilità del modello di compliance per un ente che per essere controllato è assimilato alla pubblica amministrazione sia sul fronte delle misure anticorruzione che sul fronte delle misure di trasparenza. E cioè ha detto che la compliance, l'ho scritto mentre la diceva, credo di usare le sue parole, è stata fatta addirittura prima del decreto legislativo 97 che introduce questa assimilazione, ma nell'applicazione delle linee guida, che sono raccomandazioni, non sono vincolanti, numero 8 del 2015, perché nella convinzione che quella compliance è servita all'efficienza dell'attività e ha dato dei risultati. Ho capito male? Allora, è proprio questa la filosofia da cui parte la prevenzione. La prevenzione ha tre obiettivi, in astratto ma calata nella nostra legge. Il primo obiettivo è costruire strumenti che riducano la facilità con la quale si mettono in atto condotte propriamente di corruzione, quindi creare ostacoli. Mettere anticorpi nel sistema e per rendere più difficile la vita a chi vuole corrompere nell'interesse proprio o nell'interesse dell'ente quando siamo entro un ente privato, partecipato, controllato. Scoraggiare, questo è il secondo scopo della prevenzione nella pubblica amministrazione, prevenzione nel pubblico, non nel privato, scoraggiare tramite la responsabilizzazione della pubblica amministrazione nel suo complesso e di ogni suo componente, curare il corpo, curare l'organo, le condotte che determinano un cattivo funzionamento della macchina pubblica, che in qualche caso non arrivano, come dicevo, nemmeno alle soglie della illegittimità amministrativa penale, ma che comunque segnalano sono l'anticamera dell'illegalità. E poi la terza funzione delle misure di prevenzione sono quelle di radicare una cultura del rispetto delle regole e della fiducia nelle istituzioni. Stante questo, questa è una sintesi sinteticissima della dottrina sulla prevenzione della corruzione, stante questo, il fatto che un ente privato controllato ci dica che fare compliance è servito a migliorare anche il conseguimento dei risultati economici, che è l'attività tipica di un ente privato. L'ente privato deve mettere in equilibrio la compliance con il business, quindi la compliance con l'efficienza. E a me viene detto ultimamente che ci state qui a dire che noi dobbiamo fare compliance, quando noi invece dobbiamo fare affari, come se le due cose fossero antitetiche. Bene, Archer ci dice che questa non è la loro esperienza e questo è un bel risultato. Significa che la lezione che la legge Severino vorrebbe insegnarci, cioè quello che una migliore organizzazione consente una maggiore efficienza dell'attività, bene, loro l'hanno sperimentata in corpore vivo. La seconda cosa che mi sorge, la seconda riflessione, sarò brevissima quindi in questo mio secondo giro, la seconda riflessione che mi sorge da questa bella pomeriggio di confronto è questa. Siamo infilati in una stagione, l'ha detto la dottoressa a proposito del diritto penale, lo dico io adesso per la contrattualistica pubblica, siamo infilati in una stagione in cui riforme galoppanti cambiano ogni anno, ogni due anni o poco di più, il contesto normativo nel quale gli operatori economici devono lavorare, i giudici, i magistrati devono lavorare, i vertici amministrativi devono lavorare, con tutte quelle disfunzioni che la dottoressa ha detto molto bene. Lei ha parlato della prospettiva penale, ha parlato di problemi di applicazione intertemporale della legge, di difficoltà di capire la norma nuova e quindi di renderla efficiente nel sistema. La norma non è quella che è scritta, ma è quella che funziona, e se funziona male è una brutta norma, una cattiva norma, una norma corruttiva, portatrice lei stessa di corruzione. Allora, di fronte a questa ansia di produrre norme, io mi sono chiesta, ma questo codice dei contratti pubblici incombente che sarà adottato entro novembre sarà capace di tenere fermi almeno i principi che la legge delega numero 11 del 2016 ha posto, prendendoli dal diritto dell'Unione Europea, quindi da una fonte sovraordinata alla legge dello Stato? E quali sono secondo me i principi che dovrebbero essere considerati irrinunciabili dalla prospettiva, dalla duplice prospettiva, quella dell'efficienza del contratto pubblico? Il contratto pubblico serve non a distribuire soldi ma a fare opere, non a distribuire soldi ma ad avere forniture e servizi per la cittadinanza. Quindi dal punto di vista dell'efficienza del contratto pubblico, questa riforma che sta arrivando terrà fermi i principi di sana amministrazione dei soldi, quale per esempio è, come diceva il dottor Palagio, l'offerta economicamente più vantaggiosa? Certo che è difficile da gestire l'offerta economicamente più vantaggiosa, e certo che ci sono gare talmente riproduttive che non è utile avere quell'offerta, quel criterio di aggiudicazione, e basta il criterio dell'offerta più bassa. Ma cosa ci chiede in sostanza il sistema interpretato nella sua essenzialità? Ci chiede un'amministrazione pubblica competente. L'amministrazione pubblica è un compratore pubblico, compra dai privati. Allora deve avere la stessa competenza, la stessa efficienza che ha il venditore. Non può essere a un livello più basso. Deve imparare a gestire l'offerta economicamente più vantaggiosa. Non può dire è troppo difficile, come vengono a dire a noi le stazioni appaltanti, noi non sappiamo come gestire una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Bisogna che ci attrezziamo. E io lo so perfettamente che l'amministrazione pubblica è fatta, perché conosco la mia, di persone molto volenterose, persone intelligenti, persone dedicate, persone oneste, e però il sistema nostro purtroppo ha impoverito la nostra pubblica amministrazione, quindi se oggi noi non funzioniamo non è perché siamo pieni di persone incompetenti, sciatte eccetera eccetera, ma perché abbiamo impoverito la struttura pubblica. Per esempio, tutta la politica di esternalizzazione dei servizi ha fatto sì che la pubblica amministrazione si sia impoverita di competenze, perché le persone se ne sono andate, perché il servizio è stato dato fuori. E quindi abbiamo dei persone, ingegneri, architetti, tecnici, che sono dei grandi progettisti, ma non sono dentro la pubblica amministrazione. Ovvero quando una grande comune del nord Italia mi viene a dire che hanno dovuto dipendere da società esterne per progettare il metro, è un grande comune, uno dei più grandi dell'Europa, dell'Italia del Nord, questa è la prova provata del fatto che bisogna invertire la rotta, bisogna dare competenze alla pubblica amministrazione. E rimarrà quindi questo principio della responsabilizzazione della pubblica amministrazione in questo codice dei contratti, oppure verrà spazzato via? Questo sarebbe molto grave. E rimarrà il principio che sopra una certa soglia non si fanno affidamenti diretti, non si danno agli amici le cose da fare, perché questo ci riporta al discorso della competenza e della competitività del nostro sistema. Sono domande che mi inquietano, perché vedo arrivare una stagione piuttosto dura. Grazie. Grazie, dottoressa Parisi. Due parole, due, perché l'ora è tarda, quindi sui rapporti tra corruzione e mafia, sempre parlando in ambiti generali. Ho già detto, si è già detto prima, anche da parte degli altri relatori, comunque, che accanto alla corruzione, che potrei dire banale, che è basata sullo scambio immediato tra denaro e atto del pubblico ufficiale, si riscontrano degli schemi molto più articolati, in cui non c'è più la diretta corrispondenza tra corruttore e beneficiario delle legalità politico-amministrativa, perché la corruzione non è più connessa a singole attività amministrative, ma utilizzata programmaticamente da gruppi affaristici come strumento di potere. Non è quindi un caso se nell'ultimo decennio i delitti di cui all'articolo 416, 400 associazione per delinquere, associazioni di stampo mafioso, siano stati contestati nella maggior parte delle vicende di corruzione che hanno coinvolto direttamente dei soggetti detentori di cariche politico-amministrative a livello locale, regionale o anche nazionale. In questi casi il politico, più in genere il pubblico ufficiale, non è più la controparte del corruttore. Tutti lavorano in sostanza per uno scopo comune, come dimostrano le figure dei facilitatori cosiddetti e dei pubblici ufficiali che a libro paga. Lo scopo comune è l'accrescimento di ricchezza, ovvero di potere, a danno del pubblico. Il danno poi si può concretizzare sia sotto il profilo più semplice e diretto dell'erogazione dello sperpero del denaro pubblico, sia con l'incidenza negativa sulla qualità e quantità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e delle opere da essa realizzate, giungendo nei casi più gravi ad alterare persino i criteri di scelta, facendo privilegiare le opere più lucrose a scapito di quelle più utili per la collettività. I rapporti tra mafia e corruzione si riscontra in modo unanime l'utilizzo da parte delle organizzazioni mafiose di metodi corruttivi, collusivi, piuttosto che della violenza. Fermo restando che mafia e corruzione sono fenomeni diversi, sono cose diverse. Questo non mi stupisce, perché il ricorso alla corruzione è connaturale all'essenza stessa della mafia. In questo modo semplicemente le mafie, che hanno una capacità di adeguarsi al nuovo veramente sorprendente, si adeguano all'evoluzione economica e sociale del nostro paese, che è caratterizzato ormai da molti anni dalla fine dell'espansione dell'economia e dall'aumento invece generalizzato della corruzione. In buona sostanza le mafie hanno compreso che il ricorso alla violenza, a cui naturalmente non hanno rinunciato e la cui disponibilità costituisce il loro carattere distintivo, l'uso della violenza deve essere limitato al minimo, dato che rischia di essere controproducente. È osservazione assai diffusa quella che ciò è vero non solo al sud, dove naturalmente la reazione dello Stato a seguito delle stragi del 92-93 è stata, ha inferto dei colpi serissimi a Cosa Nostra, ma è vero anche al centro-nord, dove la penetrazione delle organizzazioni mafiose, e in particolare della 'Ndrangheta, è stata certamente agevolata da un ricorso limitato alla violenza, che ha indotto addirittura taluni a negare che nelle regioni del centro-nord esistesse un problema mafia. Ha indotto altri, intendo dire imprenditori particolarmente spregiudicati, a ritenere che l'intervento dei mafiosi fosse semplicemente un costo, un affare nell'ambito di un affare commerciale come un altro. Questi rapporti tra mafiosi e non mafiosi vengono usualmente indicati con il termine di area grigia. In questa area grigia vi è la compresenza di diversi attori politici, imprenditori, professionisti, funzionari pubblici e appunto mafiosi. Inoltre vi è la coesistenza tra comportamenti legali e comportamenti illegali e la logica degli affari prevale sulla logica di appartenenza propria delle mafie tradizionali, intendo dire i rituali di affiliazione, il legame di sangue, eccetera. In questa logica il mafioso non tende a escludere o comunque a schiacciare gli altri soggetti, anche perché non potrebbe fare a meno delle loro competenze e delle loro posizioni funzionali, semplicemente se ne serve. Queste reti corruttive così estese e articolate sono particolarmente pericolose in un periodo come il nostro, come questo, di particolare debolezza della politica, perché non si limitano a ottenere delle specifiche decisioni in cambio di denaro, ma finanziando direttamente o indirettamente attraverso ad esempio fondazioni, associazioni, dei gruppi o dei singoli esponenti politici, possono influenzarne le scelte, così come possono influenzare la selezione della classe dirigente, specie negli enti locali. Sono quindi gravissime le possibili conseguenze della corruzione, sia sotto il profilo strettamente economico, sia sotto quello sociale e istituzionale. Questo quadro ha trovato puntuale riconoscimento anche nella giurisprudenza, nelle decisioni, soprattutto faccio riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione. Vi accenno a una sentenza molto nota per gli operatori del diritto, ma insomma forse meno nota per gli altri, ma che ha stabilito due principi importanti. È la sentenza della sesta sezione dell'aprile 2015, 625, nel processo Buzzi e altri, i fatti romani. Ed è poi stata citata in modo adesivo da numerose altre sentenze successive. La Corte in buona sostanza ha superato l'affermazione che l'oggetto della minaccia in cui si esprime la forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso sia soltanto la vita o l'incolumità fisica della persona. È affermato invece che può trattarsi anche o soltanto delle essenziali condizioni esistenziali, economico-lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ha poi riconosciuto che una sistematica attività corruttiva posta in essere dall'associazione di stampo mafioso può determinare essa stessa, a determinate condizioni, l'acquisizione della forza intimidatrice che caratterizza le organizzazioni appunto mafiose. Perché naturalmente vi sia nell'associazione comunque la disponibilità a fare uso della violenza e la capacità di usarla, che costituisce sempre il dato distintivo dell'organizzazione di stampo mafioso. Questa è una posizione della Corte Suprema che ha preso atto dell'evoluzione delle associazioni mafiose e delle caratteristiche della loro presenza nell'Italia di oggi. Ciò nonostante, mafia e corruzione, lo capisce chiunque, restano cose molto diverse, in quanto è ovvio che una cosa è l'offerta o la richiesta corruttiva di un normale imprenditore o di un normale funzionario, ben altra cosa è quella proveniente da un membro di un'organizzazione che può fare uso delle armi o comunque può ricorrere alla violenza. Pertanto è sbagliato legare indissolubilmente mafia e corruzione organizzata, così come è sbagliato applicare il trattamento repressivo e sanzionatorio estremamente severo previsto per i delitti di mafia alle normali forme di corruzione, perché questo creerebbe una disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali. Nella nostra regione, ho sentito prima citare il processo Emilia, non a caso la figura della professionista, della Tattini, condannata ormai con sentenza definitiva. Devo dire che la contestazione di reati di corruzione, corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, è stata pulviscolare, è stata molto limitata ed è stata limitata ad appartenenti alle forze di polizia che si sono messe a disposizione di questa associazione di stampo mafioso correlicamente sul territorio del Reggiano e non solo, Ad esempio per accelerare l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le questure, non solo di Reggio Emilia ma ad esempio anche di Crotone, per agevolare la riabilitazione di soggetti ad esempio colpiti da misure interdittive antimafia, per l'agevolazione di contatti con esponenti politici di calabresi, per far acquisire anche lì informazioni circa atti interdittivi che erano alla base delle revoche di appalti appunto subite da altri personaggi. Questa è una forma di manifestazione, diciamo, del fenomeno corruttivo che è presente anche da noi, cioè nessuno può dire di essere indenne, mi temo, dalla penetrazione di certi fenomeni criminali. Devo dire che è molto simpatico poi il mercimonio, perché questi ufficiali di polizia corrotti sono stati ricompensati con salumi, televisori, la disponibilità di alloggi e, non da ultimo, la disponibilità di entranes impiegate presso alcuni nightclub che vedevano una gestione della cosca criminale. Allora, fra le molte cose che ci sarebbero da dire, che ovviamente non diremo, provo a rispondere a un paio di domande che uscivano fuori da questo lato del tavolo, visto che dall'altro le abbiamo sollecitate. Però prima volevo dire una cosa anch'io sul rapporto fra corruzione e mafia. Quando ne parliamo con avviso pubblico in giro nell'attività formativa, quella per esempio formativa obbligatoria nei comuni di varie dimensioni, io sono solito utilizzare in maniera molto banale questa immagine, tre cerchi concentrici, cioè quello di cui noi parliamo, la maladministration di Cassese e di tutti quelli che l'hanno studiata dopo, i fenomeni di corruzione e l'infiltrazione fino addirittura a prendere in mano, come ormai con sentenza di secondo grado a Roma si è dimostrato che era successo nell'amministrazione capitolina e nelle sue partecipate, sono fenomeni che appunto non sono assolutamente coincidenti, ma ciascuno dei quali può essere prodromico all'altro. Cioè io non mi sono mai immaginato, anche se in realtà non mi sarei immaginato nemmeno, come dire, una penetrazione così forte all'interno dell'amministrazione pubblica più importante da un punto di vista se non altro numerico, perché amministra Capitale d'Italia, cioè l'arrivo di battaglioni di mafiosi all'interno degli uffici. Però nello stesso tempo, se ci pensate bene, ciascuno di voi, di chi vive negli uffici pubblici o ha contatto con gli uffici pubblici, ha fatto i conti con tutta una serie di ritardi, allora poi 40 euro per mandare avanti la pratica e quant'altro. Non vi nascondo che buona parte del mio tempo, io dedicandocene un po' ovviamente all'attività d'ufficio, la passo a parlare con le persone che vengono dall'esterno e che vengono a lamentarsi, perché quello mi dà gli indicatori migliori per capire quelle attività da correggere prima che sia troppo tardi. Il ritardo nella trattazione della pratica, l'errata interpretazione, per esempio, da questo punto di vista ci può anche essere nella interpretazione della normativa di riferimento, o vari altri tipi, fino anche ad una scarsa informatizzazione degli uffici, che sono tutti alcuni dei tanti indicatori che sono stati utilizzati per descrivere appunto la malamministrazione. Poi è chiaro che molti di questi non arrivano nemmeno al livello della rilevanza penale, meno male. C'è da augurarsi che lì funzioni anche la capacità più o meno tempestiva di reazione da parte delle amministrazioni, però sicuramente sono connessi fra di loro, perché a Roma è stato abbastanza evidente e molto plastico il passaggio dall'uno all'altro sistema. Sul discorso appunto dei cosiddetti funzionari a libro paga, mi hanno colpito molto due cose. Intanto che nel disegno di legge 1189 così viene motivato l'aumento di pena anche rilevante proposto per la corruzione impropria, cioè prima era da 1 a 6 anni, ora è da 3 a 8 anni. La corruzione impropria, come sanno bene tutti i colleghi e tecnici che sono qui presenti, è quella per il compimento di attività che sono proprie dell'ufficio, ma era esattamente quello che succedeva con una serie di funzionari del Comune di Roma, dove però la differenza era che non riguardava singoli atti, ma riguardava, come appunto ha detto la giurisprudenza, il sistematico asservimento della funzione L'altra cosa che mi ha colpito è che in realtà il dirigente si lamentava di ricevere troppo poco rispetto magari al quadro della posizione organizzativa. Dice: come? Con il contributo che io do a Tizia, a Caio, a me soltanto 1500 euro al mese, quindi per dire che poi in realtà in quella che è già evidentemente degenerata, e questa è sicuramente di rilevanza penale, ma in una situazione di confusione organizzativa, in una situazione dove non si fa attenzione a tutta una serie di segnali e di spie che ci sono, poi questi fenomeni si verificano. Altra considerazione, se volete di buon senso, qualcuno la può ritenere banale: a me non è mai capitato di ricevere un'offerta, men che decente, nessun tipo di offerta. Perché, e anche questo ormai l'ho imparato in molti anni di vita all'interno degli enti pubblici, i faccendieri, i facilitatori o direttamente anche i soggetti interessati a, come dire, svolgere pratiche in maniera regolare all'interno della pubblica amministrazione, sanno che ci sono delle porte alle quali bisogna andare a bussare. E qui torniamo al tema dei controlli, perché in molti altri casi, la stragrande maggioranza evidentemente, non si va a bussare ad altre porte, non si va da chi si sa che terrà la porta chiusa. Quindi il tema dei controlli di tipo amministrativo e la capacità di ogni ente, delle amministrazioni pubbliche, di guardarsi dentro ogni giorno è assolutamente fondamentale. L'ultima notazione la vorrei riservare, se posso, ai professionisti, perché appunto il processo Emilia, come gli altri, hanno dimostrato pesanti coinvolgimenti anche da parte dei professionisti che erano, chiamiamoli così, facilitatori qualificati all'interno di tutta una serie di procedure. Allora, quello che io dico, come nel caso dei funzionari pubblici, io ho delle regole banalissime che ho sempre utilizzato e che utilizzerò finché farò lavoro all'interno di un ente pubblico: di non ricevere per esempio da soli imprenditori o faccendieri, di non avere contatti che non siano di tipo istituzionale esterni rispetto a quello che è lo svolgimento dell'attività d'ufficio, eccetera. La stessa cosa vale anche con i professionisti. Chi arriva con il grande incarico e non solo di prestigio ma anche economicamente valutabile in termini così, qualche pensiero me lo farei venire, nel dubbio non accetterei l'incarico, perché da una parte c'è il problema dell'area grigia, dall'altro c'è il problema dell'incarico completamente fittizio, come in molti casi appunto si è dimostrato, perché quello che interessa non è la capacità nemmeno di modificare la procedura perché il bando sia adeguato alle esigenze dell'impresa che io devo rappresentare o assistere, ma è semplicemente sfruttare la capacità di relazione all'interno di uno o meglio ancora X enti pubblici. Per cui io questo tipo di lavoro e questo tipo di vaglio preventivo che sicuramente la stragrande maggioranza dei professionisti fa, ritengo, soprattutto nei casi dei più giovani che ovviamente sentono anche i morsi, come dire, dal punto di vista professionale di attività che magari non decollano, quant'altro, mi sento sempre di sottolinearlo come principio di buon senso ma assolutamente fondamentale. Mi fermo e vi ringrazio di nuovo dell'attenzione fino a quest'ora. Allora, grazie per, siamo in dirittura d'arrivo, per l'analisi e per aver insomma dato un contributo secondo me molto importante a questa discussione appunto sugli interventi, sugli strumenti di prevenzione e lotta alla corruzione, ma non solo nella pubblica amministrazione. Volevo cogliere delle insomma suggestioni che sono venute fuori da questo incontro di oggi. Si è parlato in tutti gli interventi di cultura, declinandola sotto diversi punti di vista: la cultura giuridica, la cultura delle buone prassi, che è un po' anche quello che cerca di fare Avviso Pubblico anche con questi interventi, ma sempre con un'attenzione rivolta a quelle che sono le buone pratiche non scontate, mi viene da dire, messe in campo dagli enti pubblici rispetto a tantissimi argomenti di cui si occupa. Mi ha colpito molto la definizione della dottoressa Parisi sulla fragilità della politica anche rispetto a questo tema, e quando alla fine ha detto appunto bisogna radicare una cultura del rispetto delle regole che ci può aiutare, che ci aiuterà sicuramente anche a fronte di quei dati che leggeva di quel 20% del rapporto di stamattina, a ripristinare ripristinare una fiducia nelle istituzioni, perché secondo me appunto accanto agli interventi della magistratura, accanto agli interventi, passatemi il termine, tecnici dei professionisti impegnati nel contrasto alla corruzione e anche nel contrasto alla corruzione legato al tema più strettamente delle mafie, il supporto politico deve in qualche modo veicolare quella che è la cultura del rispetto delle regole, quindi mettere a disposizione non solo dei professionisti ma dei cittadini tutti, perché questo è il compito dell'istituzione anche comunale, dell'istituzione politica, mettere nelle mani dei cittadini quegli strumenti per riconoscere determinati tipi di fenomeni, perché appunto Bologna si colloca perfettamente in quel quadro che delineava la dottoressa Scandellari, dove abbiamo una situazione di una presenza criminale poco percepita proprio perché ha lasciato nei territori di origine e adesso si è trasformata anche lì, ha lasciato lì la violenza e ha trasformato la propria capacità integrarsi, interagire con il tessuto sociale di un territorio di non appartenenza facendosi forza anche con lo strumento della corruzione e non solo. Quindi chiudo ringraziandovi ancora per gli interventi, per tutti gli strumenti appunto che ci avete fornito oggi in queste giornate che proseguiranno, e ripasso la parola a Francesco. Io velocissimo vado a chiudere, due cose, una seria e una non seria. La più seria è legata al fatto che a me sembra evidente che, come si è emerso stasera, che questi fenomeni e questi temi mettono l'individuo e le organizzazioni di fronte a degli elementi non controllabili e a degli elementi controllabili. Per esempio, la crisi economica è stata un elemento che ha favorito enormemente l'esplosione del meccanismo e la trasformazione dell'infiltrazione mafiosa al centro-nord. Da sistema già presente, ma più collegato all'economia illegale, a sistema enormemente integrato con l'economia legale, perché quella massa enorme di denaro liquido, contante, che le organizzazioni criminali possedevano, è diventato un capitale che ha invaso un mercato in una crisi gigantesca, enorme, nel periodo di crisi. Esistono però delle dimensioni governabili, e le dimensioni almeno su cui si può far fronte, la crisi economica è qualcosa che è oltre noi, non è controllabile, invece le dimensioni organizzative oggi sono emerse come dimensioni importanti, fondamentali, e guardate, lo sono al punto tale che la direzione investigativa antimafia, nella relazione annuale dell'anno scorso, nell'analizzare la situazione ligure e la sempre maggior pervasività di 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra nel porto di Genova, scrive che il venir meno della cultura organizzativa del lavoro di quel mondo, dei camalli genovesi, con tutte le difficoltà e le problematicità, non è un giudizio di valore, però il venir meno di quel modello, di quella cultura organizzativa, ha permesso un'infiltrazione molto più pesante. E i camalli genovesi non erano un'organizzazione scientifica, una cultura, però le dimensioni organizzative sono fondamentali, e la cosa interessante è che sulle dimensioni organizzative l'individuo ha un rapporto ricorsivo, retroattivo con le dimensioni organizzative, cioè l'organizzazione influenza me, ma io influenzo l'organizzazione costantemente, e quindi è una possibilità, ci sono elementi lontani e elementi vicini. E questo secondo me è interessante ed è una possibilità che ciascuno di noi porta a casa nei propri contesti organizzativi. L'altro elemento è il tema della credibilità delle istituzioni, e su questo a me viene in mente solo Woody Allen, che, se non ricordo male, dice una cosa di questo tipo: io ho una religiosità come quella di mio padre, e sapete, lui non credeva tanto alla Bibbia perché riteneva il personaggio principale poco credibile. Ed è così, cioè il rapporto tra i cittadini e le istituzioni ha a che fare con quella cosa lì, e noi abbiamo il dovere di essere credibili se vogliamo che i cittadini poi credano nelle istituzioni. Grazie a tutti e arrivederci.